Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Signori miei, benvenuti, buona domenica, sono le 14:33 primi e 22 secondi, pronti, puntuali, qui ai microfoni di Radio 24 con Voice Anatomy e come sempre cominciamo ricordando chi è nato oggi e ci ha regalato dei momenti meravigliosi, anche più di un momento. Oggi è la festa del grandissimo Highlander. Ah, persona meravigliosa, regista pazzesco, Franco Zeffirelli, 94enne oggi, pensate, nato a Firenze proprio il 12 febbraio del 1923. Ci ha regalato tantissime opere, sia nel cinema che nel teatro, che nella lirica. E allora noi vogliamo cominciare regalando un momento tratto da un suo film, però con la viva voce del nostro primo attore doppiatore presente in studio, che poi presenterò come si conviene. Il film è Romeo e Giulietta, il sottofondo è proprio la colonna sonora originale del grande Nino Rota e la voce lo scoprirete strada facendo. Questo è il primo momento del balcone. Romeo. Ride delle cicatrici chi non ha mai provato una ferita, ma piano. Quale luce spunta lassù da quella finestra? Quella finestra è l'Oriente e Giulietta è il sole. Sorgi, o bell'astro, e spegni la invidiosa luna che già langue pallida di dolore, perché tu, sua ancella, sei molto più vaga di lei. Non esser più sua ancella, giacché essa ha invidia di te. La sua assisa di vestale non è che pallida e verde, e non la indossano che i matti. Gettala. È la mia signora, oh, è l'amor mio. Oh, se lo sapesse che è l'amor mio, ella parla eppure non preferisce accento. Come avviene questo? È l'occhio suo che parla, ed io risponderò a lui. Ma è troppo ardire il mio, essa non parla con me. Due fra le più belle stelle di tutto il cielo, avendo da fare altrove, supplicano gli occhi suoi di voler brillare nella loro sfera, finché esse abbiano fatto ritorno. E se gli occhi suoi in questo momento fossero lassù e le stelle fossero nella fronte di Giulietta, lo splendore del suo viso farebbe impallidire di vergogna quelle due stelle, come la luce del giorno fa impallidire la fiamma di un lume. E gli occhi suoi in cielo irradierebbero l'etere di un tale splendore che gli uccelli comincerebbero a cantare credendo finita la notte. Guarda come appoggia la guancia su quella mano. Oh, fossi io un guanto sopra la sua mano per poter toccare quella guancia. Essa parla. Oh, parla ancora, angelo sfolgorante, poiché tu sei così luminosa questa notte, mentre sei lassù sopra il mio capo, come potrebbe esserlo un alato messaggero del cielo agli occhi stupiti dei mortali, che nell'alzarsi non mostra che il bianco, mentre valca repigre nubi e veleggia nel grembo dell'aria. Beh, per un attimo, mi sono sentito anche un po' Giulietta, volevo rispondere, dire Romeo, sei tu Romeo, però non è stato così. Beh, auguri grande Franco, auguri davvero e grazie per tutto quello che ci hai regalato, ovviamente. E allora invece passiamo alla persona ospite, l'attore, doppiatore, amico e tante altre cose. Nel frattempo ringrazio dall'altra parte del vetro, come sempre, il puntuale, questo con quelle critiche, no? Puntuale Alessandro, l'immarcescibile Rachele, caporedattrice, Alessia Navarro e Mauro Meconi come autori, ma soprattutto questa bella voce che ci ha accompagnato, questa giovane voce, questo giovane donzello. Questo giovane donzello. Esatto, eccolo qui, Andrea Mete. Ciao ragazzi, buongiorno. Ragazzi, sono pure persone grandi come me. Però ragazzi comunque. Sì, io... Diciamo comunque ragazzi. Se che io mi sento un ragazzo... L'altro giorno stavo parlando con un signore di Continuava, 75. Mi diceva la cosa terribile è che lui si sente di averne 20, ma in realtà ne ha 75. Sì, quindi... quella è una sensazione comune. Io una roba... dissi un giorno a un collega grande, non faccio nomi, una persona, un collega straordinario, ottantenne, gli ho detto, sai, parlavamo di donne, e gli ho detto, senti un po', ma che succede quando uno arriva a 80 anni? Dice, Pitto, do una brutta notizia. Le sensazioni e le voglie sono come quelle di uno dei 20, ma poi non ce la fai. Deve essere quello strano. Me l'ha detto con una voce bellissima. Quello deve essere strano. Sì, non lo so, ancora no. Salutiamo Gigi Proietti. Non è lui, ma che dici? Non parlavo lui, era un collega doppiatore di una certa età, però di una simpatia assoluta. Il signor Andrea Mete, figlio d'arte, insomma. D'Artri. D'Artri, io sono figlio d'Artri perché... Però tu c'hai un papà che, insomma, Marco Mete è un super papà. Un super papà e anche una super mamma, insomma. Sì, saluta, sì, anche, sì, mamma, sì, dai, sì, non mi sembra. Ciao mamma. Certo. Ciao mamma. Tu nasci a Roma il 12 luglio dell'85. Lo so, c'è scritto, C'è noi scritto ovunque. Tu ovunque, ormai non puoi far finta. No. Una volta si faceva finta niente e te levavi 10 anni. Alba Perietti passò 15 anni a festeggiare i 39 anni, cioè per, sì, 12 sì, anni. Me la ricordo che la vedevo. Beh, adesso non ce n'è più per nessuno. C'è scritto quando no. Sei nato il segno zodiacale. Che segno è? Luglio Leone? Cancro. Cancro, vedi. Io cancro. Sono ascendente cancro. Io ascendente pesci. Vedi, non so che vuol dire. Ma qui ogni volta mi fanno, si vede. C'è. Vero? Siete come tutto periodo. Gli uomini cancro ascendente pesci. Io so solo che l'uomo vergine è preciso, puntuale, una rottura di palle e l'uomo vergine, ciagolite. L'uomo vergine dipende da che età. Io c'ho tutte quelle. Però dipende a che età l'uomo vergine. Sì, certo. Speriamo che non sia sempre vergine. Ma è così, insomma, mi dicono sempre no, questo è, e so, riconosco nell'uomo vergine il colon irritabile. Ecco. È bellissimo parlarne alle 2.39 di colon irritabile. Salutiamo il dottor Burioni adesso. Sotto il mio medico del Sant'Andrea. Salve dottor Mascagni. Senti, allora tu sei la voce italiana di molti attori, tantissimi. Joseph Gordon Levitt, come si pronuncia quest'uomo? Ma Non lo sai neanche tu, sinceramente, finalmente, no. Signori. Sinceramente no. Mandateci la pronuncia esatta come scritta. Se qualcuno la sa. Sì. Altre qua. Oh, guarda, qui ho degli estimatori e dei miei. Ho degli educatori. Io sono tipo My Fair Lady qui. C'è Pensa che io l'ho conosciuto a Joseph? Sì, perché stava lì per una. Come hai riconosciuto? Cioè, lo devi come gli hai detto, Joseph. Esatto. Cioè, comunque non gli dice il cognome. Comunque non gli dice giù il cognome. Lui ha aperto una startup che credo in uno o due anni ha fatturato non so quanto, che si chiama Hit Record, e la presentava a Lisbona al Web Summit. Ha creato una sorta di social network dove ogni giovane o chiunque può caricare quello che fa, da poesie a doppiaggio a... un modo per mettersi in evidenza, sottolineare la propria con presenza. La sua produzione, poi se lui usa queste piccole cose vengono pagate. Ma che bella cosa. Si chiama Hit Record. Ed è un'applicazione. Gli mancavano i soldi a Joseph, sì, allora si è inventato sta cosetta, sì. Tanto per, che poi insomma ricordiamo, perché sai, sono quegli attori giovani che uno dice che film ha fatto, veramente sì. Tanti. Noi abbiamo qui un Joseph, ce ne abbiamo un paio. Che cosa abbiamo di Joseph? Dillo a voce alta. Ah, Snowden, l'ultimo sì, film sul grande... Edward Snowden. Che ha messo un po' in difficoltà gli Stati Uniti. Sì, Oliver Stone. Che, ho visto il documentario di Snowden. Sì. Bellissimo. Sì, meraviglioso. Bellissimo. Pensa che adesso credo sia in grave condizione, essendo stato nominato Donald Trump presidente. Perché Donald Trump... con la Russia è... No, Donald Trump ha proprio detto che lui meritava la pena di morte. Ah, una cosetta così. Anche Hillary Clinton ha detto che se mai fosse diventata presidente si sarebbe presa cura di lui in modo pesante. Addirittura, cioè non c'è destra, adesso sinistra, lui è in Russia, no, adesso Russia, lui è a Mosca. Che non è il posto più giusto per lui in questo momento. Ma guarda, no. Vista l'amicizia. Sì, non è Minoli questo qui a trasmissione, siete con Pino Insegno e Andrea Mete, stiamo parlando di voce, ma questa voce ci sta raccontando cosa succede nella sì. realtà attraverso un film. Tra insomma. L'altro un film meraviglioso, a me Oliver è stato... Stone è uno che racconta la realtà sì. in maniera pazzesca. E devo dire che molte persone si aspettavano, forse anche da Oliver Stone, un film con effetti speciali. Ci sono degli effetti speciali, ma è un film veramente descrittivo di quello che è stato questa storia incredibile e... È molto interessante ai tempi di oggi, ai tempi dei social network, ai tempi della privacy. Sembra un film, anche il documentario sembra un film, sembra inventata questa storia. Guarda, questo ragazzo io che sono riesce tornato a entrare a casa e non scherzo, ho messo un cerotto sulla webcam frontale del mio computer. Ora, voglio dire, non è che devono per forza venirmi a trovare a me. Abbiamo impronte digitali sul telefono, ormai c'è per cui sanno perfettamente dove siamo. In questo momento lo sanno sicuro, siamo online. E noi sentiamoci un momento di Snowden, dove tu doppi il grande Joseph Gordon, basta. Questo film di Oliver Stone, tratto da una storia verissima e attuale. Prego. Le tue email sono sorvegliate. Quindi? No, adesso è diverso, non è raccolta passiva, è sorveglianza integrale, riguarda tutte le mail, telefonate, messaggi, social, è su tutto. Ed è anche possibile che in casa ci siano delle cimici. Perciò, ora, ascoltami attentamente. Quando rientriamo in casa, tutto dovrà sembrare normale. Ci comporteremo come sempre, ma appena noterai qualcosa di strano, dovrai dirmelo immediatamente. E comincerai a usare una email criptata che sto impostando per te. Eccoci qua, mi ero fissato perché arrivano tanti messaggi al 349-238-6666, a parte i complimenti, eccetera. Dice qualcuno, dice, mi fai Romeo è meglio del Colosseo. Dico, fino a 2 secondi fa dicevo, guarda, Radio 24, un pubblico molto attento, medio alto, ed è partito subito con ce fai Romeo, io sono Romeo. Era il grande, pensate, Renzo Montagnani che doppiava Romeo, che non è anche romano ma era toscano. Comunque, se pensate veramente che il doppiaggio italiano... adesso, per esempio, io ho iniziato a vedere anch'io delle cose in originale, anche viaggiando. Viaggiando. E devo dire, a favore del doppiaggio, ci sono delle cose che non esistono fuori. Cioè, Romeo è il meglio del Colosseo, che è una cosa che per me, con cui io sono cresciuto, che è storica nel mio passato. Come sono cresciuto, un milione di persone. È strano, perché poi quando tu lo vedi in inglese, tante volte non te lo ritrovi. E in verità devo dire che a molti dei cartoni sono, secondo me, meglio in italiano, perché... Assolutamente, sono d'accordo con te, ma non per esaltare questo mestiere, è che lo esaltano loro. Sì. Nel senso, ieri parlavo con Luca Ward e mi ha fatto un racconto meraviglioso per quanto riguarda il doppiaggio italiano, quanto si è apprezzato e quanto si è preso a riferimento dagli americani per far doppiare il film in tutta Europa con quella direzione tecnica. Sì. Se pensate che tanti film vengono addirittura visti in italiano, perché... Perché loro non sopportano l'idea che un vietnamita magari parli con la voce francese, cioè, lo sentono in vietnamita. Così certi film, tipo Il Padrino, tante cose, sentono la versione italiana. Ma tra l'altro italiana. Adesso la lingua italiana stranamente è entrata nel lessico americano. Cioè molte parole italiane, come noi usiamo weekend, sono usate nel lessico italiano. Lo dicono fine settimana. Nel lessico in americano. Certo. Non so per quale motivo. Perché siamo lì da tanto tempo. Forse sì. L'abbiamo fondata noi. Comunque la verità è che siamo... Cioè, non ce ne vorrà il povero Donald Trump, ma la verità è che tutti noi siamo un popolo di immigrati, quindi sicuro, anche gli italiani lì, in America sono stati forse i primi no, ma insomma i secondi e i terzi, insomma, è arrivato Frank Sinatra prima di Chinatown, credo. Abbiamo che fosse nata Little Italy sicuramente, ma è arrivato prima Al Capone di qualsiasi proibizionismo, Frank Sinatra, eccetera. Va bene, siamo arrivati alla fine del primo momento insieme, ma come vi dico ogni domenica, restate con noi perché Voice Anatomy è appena cominciata. Anatomy. Eccoci, 14:47:50 secondi, sempre in compagnia di Andrea Mete, Voice Anatomy, come dico sempre, puntuali, Rachele, Alessandro e tutta la troupe, ha trovato in originale gli Aristogatti. Dai. Sentiamo come in originale, com'era Romeo, come si chiamava, Mahali. Thomas? Mahoney. O'Malley. Abraham Delese. Giuseppe Casey. Thomas O'Malley. Io sono Romeo. O'Malley the Alley Cat. Che cos'è? Ma forse il riferimento è sempre provinciale, forse non. Sentiamo come la pronuncia a proposito di Voice Anatomy. Gotta strut them city streets, showing off my clad. Già. No, era meraviglioso. No. Ogni gatta che ti deve dire maschione che... No, ma realmente cercami Renzo mondo. Montagnani, cerca Alessandro, assolutamente. Facciamo sentire il mondo che gli ha costruito, proprio l'andamento del romanzo. Ma chissà perché l'hanno... Che bella idea comunque, gli adattamenti. Meravigliosa. Gli adattamenti sono questi. Era un gatto irlandese, un Malley, per cui Cockney. Diciamo che era di fuori, era irlandese per gli americani l'Irlanda. Forse. Comunque in italiano e in romano un altro mondo. Sì, sì, è uno dei quei rari casi in cui il dialetto ci sta, perché tante volte non sono d'accordo a facilitare il doppiaggio con il dialetto. Ho fatto parte di alcuni progetti. E allora bisogna stare un po' attenti. Allora, allora, Pino, non me ne avere, ma Andrea è il mio doppiatore preferito in assoluto. Ottimo. Vabbè, non leggo più questo messaggio. Grazie a lui ho conosciuto il mondo del doppiaggio e appena finita la maturità vorrei intraprendere questa carriera. Ciao, grazie a Chiara. Chiara, mi raccomando, grazie, però Chiara. Devi essere un'attrice di base, sì, per poi affrontare il mondo Guarda, del doppiaggio. Guarda, in realtà tantissimi ragazzi mi scrivono spesso su Facebook, su Twitter, su Instagram e mi scrivono cosa è fondamentale avere o fare per fare il doppiaggio. La verità sì, come dice Pino, devi essere un attore, ma non è che per essere un attore c'è un patentino. No, certo, quindi, devi studiare la base, insomma, la dizione, l'impostazione. È chiaramente preparata. Una cosa che rispetto a tante altre hai dentro, credo. Ci sono delle cose che è un talento innato. Tu hai sentito alcuni. Subito questa forma d'arte oppure ti è cresciuta dentro, stata facendo, visto che avevi in realtà, papà e mamma all'interno in realtà del mondo? No, in realtà no, in realtà forse lo sono sempre stato, ma non al servizio di un lavoro. E in questo devo dire tu sei stato fondamentale, nel senso che io a 17 anni... ho fatto uno spettacolo con questo signore qui. È vero, l'ho fatto debuttare e a teatro. E devo dire che quello spettacolo per me è stato fondamentale a livello psicologico. Cioè nel senso che ti ho levato da un ospedale psichiatrico, sì, ti ho esatto. portato via dalla possibilità esatto. di abitare in un ospedale no, psichiatrico. La verità è che lavorando sempre al buio, perché il doppiaggio è un lavoro che fai da al minatori, buio sì, cioè, rispetto dei minatori ovviamente. Avere il contatto con delle persone ti libera nei movimenti, ti libera nell'espressività, nella totalità di tutto il tuo corpo. Quindi comunque sì, dizione, impostazione. Insomma. La verità è che come quando tu sai fare uno sport, da quel punto in poi tu puoi liberarti e puoi dare il tuo meglio quando sai la tecnica. Quindi la tecnica purtroppo in questo lavoro è molto importante. Assolutamente sì, si può piangere adesso, Andrea, pur sorridendo può piangere. Molto importante, capito? Quindi sì, comunque mai parlare con una donna con un doppiatore per telefono dall'altra. Mi sta venendo una lacrima. Oltretutto stavamo parlando prima perché di sei diventato prima di te. Padre per quello. Sono diventato padre e stavamo parlando. Aspetta che hanno trovato Romeo in italiano. Ecco. Il caso cambiato. Io sono Romeo. Meglio del colo, se io fermo non c'è so. Proprio non me va. Io la trovo meravigliosa. Bellissima. Se domani qui sarò. Sornione. No, ma. E poi Renzo Montagnani, capito? Forse un po' m'acchitterò e me ne andrò in città. Meraviglioso. Già. E poi laggiù tanta scena farò. Ogni gatta che me vedrà dirà. Bella, bellissima. No, non c'è niente da fare, no. Renzo Montagnani è stato un grande, anche lui prestato al doppiaggio, insomma, l'eroe dei B-movie italiani di quel periodo, delle Professoresse, delle Vigilesse. Che poi hanno fatto la fortuna di Quentin Tarantino. Sì, praticamente sì. E beh, poi l'ha modificato abbastanza. Sì. Senti, quando è che hai capito che potevi fare questo mestiere? Mai, ancora non l'ho capito. Ancora ogni volta che vado e rivedo un film fatto dico, ma ero io. No, ma sei sì. cresciuto moltissimo in questi anni, perché veramente tutti gli attori giovani, bravi, sono in bocca a te. Nel senso buono del termine, ovviamente. Ti ringrazio, Pino, ma... Ho detto una cosa carina, cioè in bocca a te tu sei fai il doppiatore, fai l'attore, evochi con la voce. Scusami, ma vedi che è doppio senso davanti spettacolo veramente basso. Allora, vabbè. Ascoltiamoci. Togliamoci da questo imbarazzo. Grazie. Cosa vuoi ascoltare di te? Di me? Sì, una serie tipo Penny Dreadful oppure vuoi andare su Alpha Dog dove c'è Penny Dreadful, questa Penny serie Dreadful. È molto sì. bella, diretta da... Bravo Simone D'Andrea, che sì. non mi ha mai chiamato, ma comunque. Beh, no, non è un problema. Forse non hai il numero, perché comunque. No, dice che non c'erano attori giusti per me, ma non è problema. Io l'ho invitato per radio. Adesso aspetto. Ah, va bene, sì. ascoltiamo un Penny Dreadful. Chi è l'attore che fai dentro? Josh Hartnett. Ah, Josh Hart, quello bello, bello. Quello bello, bello. Che è bello, bello. Josh no, è bello, bello. A me piacciono le donne, però Josh Hart. Ma che vuol dire adesso bello, in un bello momento storico come questo? Vabbè, sei pure ovvio antico. No, ho capito, sarò me antico, ma. Devo togliamoci dire che da quest'altro imbarazzo e ascoltiamo Josh Hart in Prendi Dreadful con la voce di Andrea Mete. Grazie. Stavi per ucciderlo. Non ne ho avuto modo, ma immagino tu lo sappia. Ti senti meglio adesso? Ora che sei un'assassina. Suppongo sia ciò che hai imparato qui, no? Dalla tua dolce anziana amica. Come uccidere i bambini e come uccidere gli uomini è il posto che fa per te. So quello che ho fatto. Davvero? Sai cosa significa portare il peso di un morto sulla coscienza per il resto della tua vita? Sai cosa significa, ragazzina? Lascia che te lo spieghi. La prima volta è dura. Sono sicuro che hai pianto, vero? Non preoccuparti, passerà. La seconda è più facile. La terza sarà impassibile. Da lì in avanti è pura routine. Non piangerai più. Non ricorderai nemmeno quando piangevi. Tu sei viva e loro sono morti. Si fottano! Smettila! Ecco, smettila. Ecco. Beh, bella, una serie bellissima. Una serie la terza stagione finisce, no? Finisce per sì, Dreadful. Sì. Ecco, così non mi chiamerà mai. Abbiamo fatto, no, non ti potrà più chiamare per questa serie, credo. Mi è sembrata strana, non sono io, ma sono sempre i messaggi, leggo quelli un po' più interessanti, dimmi, anche se gli altri li ringraziamo dei complimenti. Certo. Mi è sembrata strana l'ultima serie di inquadrature di Snowden. Lui, alla fine del film, essendo la sua faccia quasi come so io, che vuol dire, fra virgolette, chissà perché farla conoscere. Ah, cioè, guarda, non l'ho visto, ha il film, ho visto il docufilm che no, lui, nel senso poi lui non ha problemi online, no, su YouTube ci sono milioni di no, milioni, ma poi c'è no, il film, il docufilm che racconta la c'è storia lui del film e c'è lui. Sì, sì, no, no, no, guarda, il lui ragazzetto è primo della classe, sembra carino. Sì, sì, lui ha fatto realmente tantissimi collegamenti con delle dei summit in America, spiegando la sua posizione, spiegando che lui è pronto a anche a, come dice il film, lui era un patriota, cioè lui era uno che sì, ha fatto provato quella a fare il militare, ma non ci è riuscito per questioni fisiche. Poi l'hanno messo davanti a un computer e lui lì ha un genio, ha dato il suo meglio e per gli americani, per alcuni americani, il suo peggio. Quindi, però per la maggior parte degli americani sembra che abbia dato il suo meglio. Perché la fatto verità sì, ma la verità è che quello che dice è molto importante, nel senso che la sua paura più grande, lo dice anche nel film, era che tutto quello che lui ha fatto potesse essere inutile. Nel senso che noi oggi sappiamo che siamo controllati. Però, cioè, però comunque continuiamo a mettere i nostri per dati. Cui non ha messo a repentaglio la sua vita. Non so se inutilmente, non so se inutilmente, okay, però. Boh. Rimani con noi, restate qui. Voi di Voice Anatomy, Pino su Radio 3, Rai alle 14 si parlava di Mozart che parlava e scriveva in italiano. Viva l'Italia, sempre qui, un momento di viva nazionalismo. L'Italia. Vai con l'inno nazionale, andiamo in pubblicità. Ci sentiamo fra pochissimo, grazie. Sir Tomlinson, good morning. Ah. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour, Julie. Bonjour. Das antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. Oh, vi aspetto, è dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega? Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, le 15 in punto, una manciata di secondi, sempre Andrea Mete che sta in una diretta, lui è siamo in una diretta Facebook. La tua diretta del tuo sito, perché voglio parlare anche di te, fotografo, che sei straordinario e riconosciuto in tutto il mondo. Sì, sì, devo dire che abbiamo fatto. Non è fotanatomi, ma insomma, ce ne no, anche però devo dire sì, ci sono state esposizioni a New York, a Berlino, adesso ne sto organizzando una a Londra e insomma devo dire che beh, da soddisfazione, da grandissima soddisfazione. È una cosa che volevo aprire fra un po' questo link, perché intanto abbiamo aperto questi duplice link di Romeo che ormai stanno impazzendo e Hillary, ecco Snowden, anche Hillary come hai detto tu d'accanto suo si era augurata che Snowden venisse sì, ucciso con un drone. Qui c'hanno delle, cioè tutti sono ormai agenti segreti, spionaggio. Tu pensa che adesso non voglio dire una cavolata. No, vabbè, siamo so sdoganati da Cruciani. Ok, non so se sto dicendo una cazzata, ma ecco, insomma, Svezia o da un'altra parte. Hanno addestrato delle aquile per abbattere i droni. Guardi me perché sono della Lazio e pensi che Olimpia sia una di queste. No, no. Adesso questo teniamolo fuori. Ma potrebbe essere veramente. Io penso, ho un drone. Devo essere onesto. Sì, ma ormai ce l'hanno, li vendono da Rocco senza fare pubblicità. Da Rocco. Vabbè, insomma. I droni di Rocco. Sì, che sono grossi. Sono dei droni molto grossi e molto performanti. Sono le 3.01. Ma no, anche non da mezzanotte allora, la replica si può fare. Okay. Allora, i droni di Rocco, non lo so. I droni normali hanno un. Sulla cartina geografica che tu hai sul telefono quando puoi volare, ci sono delle zone dove ti dicono questa, che ne so, ci sono delle zone particolari di ogni città. Se non sbaglio, ci sono delle zone in cui tu devi pagare un permesso per farlo volare in quella zona. Certo, ma ci sono anche delle zone che sono invalicabili, immagino. Giusto, forse, guarda, forse gli aeroporti. Forse il Vaticano. Diciamo che sì, sicuramente, non puoi far volare un drone. No, forse sì, è vero, forse sì. T'ha fatto male doppia Snowden, sai, era meglio ma quando... Ma a me ha fatto malissimo, perché quando sono tornato a casa, ho messo cerotti a tutte le telecamere che avevo per ammorbidire tutto ciò. Abbiamo anche le telecamere dei bambini, per il bambino, quindi... Cioè, il bambino può essere denunciato, sì, vabbè, che piange in un momento che non dovrebbe, esatto. Sempre. E invece a questo punto alleggeriamo questa situazione, andiamo su un film dove io l'altra settimana l'ho visto in DVD perché è uscito al cinema poi da poco, che è Io prima di te. Per me è stata un'esperienza meravigliosa doppiarlo, devo dirti ma la verità. Bello, sono quei film che uno sogna di fare, come PS e Love You. Sì. Voglio piangere. Sì. Guarda, cioè, si piange. L'hanno paragonato a quello, a Love Story. Com'era? Le pagine della mia vita. Le pagine della mia vita. Sono questi due o tre film che chiunque, The Notebook, a qualunque ora, chiunque lo guarda, di qualunque età, piange. Ma sì, anche La casa sul lago del tempo, sulle rive del tempo, quello con Keanu Reeves. Con Keanu Reeves, sì. Che è un'altra cosa. Devo dire, questo film è stato per me meraviglioso, una storia in cui... Beh, a tavolino, scritto bene, un romanzo scritto bene, dove alla fine ti strappa il cuore. Sì. Sono tornato a letto a luna che volevo piangere, mia figlia e mia moglie, abbracciarli e piagne con loro. Sì, ho dato una bottarella a mia moglie e ha detto, tastora! Ho detto no, volevo solo dirti ok, non era quello, okay. Nel senso che è andato lì per vedere se era sveglia. No, gli ha fatto così, ti prende proprio. Voleva vedere se era sveglia. No, esatto, lei ha immaginato chissà cosa, ma era l'una e mezza. Vabbè, comunque sentiamoci un momento di Io prima di te, dove tu doppi Sam Claflin. Sì. Comunque Jason Gordon Levitt. Sì, abbiamo sentito la pronuncia con Rachele poco fa. Prego, Io prima di te. Quando ero bambino, questo era il mio posto preferito in tutto il mondo. Credo che sarebbe ancora il mio posto preferito. Perché non hai mai viaggiato. Oh, e dov'è meglio di qui, allora? Parigi. Place Dauphine, vicino al Pont Neuf. Se chiudo gli occhi adesso, so esattamente che effetto fa trovarsi in quella piazzetta. Allora andiamoci, possiamo prendere un Eurostar anche adesso. Tu non capisci, Clark. Voglio stare a Parigi, essendo me. Il vecchio me. There she goes in front of me. Troppo tettoso. Vai col vestito rosso. We'll make memory out of it. Leva la sciarpa. Se vuoi metterti un vestito così, Clark, devi indossarlo con sicurezza. Solo tu, Will Traynor, puoi dire a una donna come indossare un maledetto vestito. Bene, ti porto dentro. Un momento, Clark. Stai bene? Io non voglio rientrare ancora. Voglio essere un uomo che è stato a un concerto con una ragazza vestita di rosso. Ancora per qualche minuto. Ecco. Beh, allora, voi state sentendo questa storia, sembra una storia d'amore normale, però mi sento giustamente in dovere di raccontare almeno l'inizio, non voglio fare lo spoiler di questo film, che poi finalmente ho capito che significa spoiler, pensavo che uno si fosse fatta una macchina decappottabile. Potrebbe ho capito essere. Che non è così. E quando racconti la fine di una qualcosa, ecco, la storia è semplice, un piccolo centro inglese, Scozia, un piccolo paese, questa ragazza intraprendente, carina, un po' kitsch come si veste, che cerca lavoro. E un'alternativa a questo è c'è una storia di questa famiglia molto ricca con questo ragazzo, che all'inizio proprio del film è bello, comincia che lui sta facendo l'amore rampante eccetera, attraverso la strada viene investito, sedia a rotelle, questo sui titoli di testa già comincia così, per cui non vi ho rovinato nulla. Lei cercando lavoro trova lavoro come infermiera, come amica di questo ragazzo che ovviamente non ne vuole sentire parlare, sia di vivere che di avere un'amicizia femminile. Da lì in poi si dipana. Sì, da lì in poi non subito, però si cresce tutta la specie. Un film è proprio che tu dici ok, e dai, tra l'altro ce la fa. Dobbiamo anche dirlo, Emilia Clarke c'ha uno dei tre sorrisi più belli del mondo. Ah sì, è carina quella ragazza, è vero. La vita. Chi la doppiava lei? la doppiava Erika Necci. Il film l'abbiamo fatto con la direzione di Francesco Pezzulli, credo. Non so se il Pezzulli, non so se è la sua prima direzione con l'ETS, non so se è la sua prima direzione di Pezzulli, film. Che è Leonardo DiCaprio, che poi ogni tanto ci sfottiamo a distanza perché lui sta a Radio DJ con il trio Medusa e ci sfottiamo a distanza. Ma ragazzo straordinario, un uomo straordinario, un anziano, diciamolo. Poi se vuole lui telefona, sì, dovrebbe comunque, sì. No, non so se adesso sta comunque facendo dei tornei di tennis. Sai? Lui? Sì, lui fa, non so se fa l'arbitro. Sì, di calcio. E però, quando dice guarda che fuori, dice ti fidi di me? Sì. Utilizza questa frase. Lo utilizza spesso. Ha fatto nel Titanic. Ciao Francesco. Eccolo là. Senti, tu parlavamo prima della fotografia. Ovviamente tu stai doppiando e hai doppiato qualsiasi cosa, non è che dobbiamo raccontare. Se volete sapere qualcosa di più della vita di un doppiatore, chiedete, basta andare sul sito di Antonio Genna e c'è tutto. E c'è tutto. E capirete che non si può parlare in una trasmissione di tutto quello che uno fa. Veramente quel sito, visto che tu l'hai nominato, è fatto realmente da giovani ragazzi senza nessuna retribuzione da parte del mondo del doppiaggio, di qualunque credo istituzione, non lo so se qualcosa è cambiato. Però insomma nessuna. Quindi l'ho anche invitato, spero che mi risponda presto perché è giusto che venga. Sì, sì, devo dire che sono un grosso database che riguarda il nostro doppiaggio, diciamo. E anche come attore, perché c'è poi la vita di ognuno, anche non è molto più approfondito di Wikipedia, insomma, che non è così profonda per quanto riguarda le nostre biografie. Senti, tu sei appunto artista tutto tondo e qualche anno fa hai scoperto questo potere evocativo della fotografia. Che devo dire che come ti sei avvicinato all'arte della fotografia? Mi sono avvicinato con le prime Polaroid che mi avevano regalato quando ero piccolo e piano piano ho capito che era uno dei lavori più belli del mondo, nel senso che io sono molto appassionato delle persone. A me interessa tantissimo camminare per strada e vedere le persone, le facce, viaggio moltissimo anche da solo. Sì, lo so, mi arrivano foto dalla Thailandia, da Singapore. Però devo dire che è uno dei lavori più belli del mondo, perché uno dei pochi che, forse insieme alla scrittura, che ti permette di vedere le cose con gli occhi di un'altra persona. Nel senso che vedere le foto di un altro e vedere come quell'altra persona vede altre cose, ed è una delle cose più intime secondo me che esistano nel mondo, senza nessuna contaminazione, cogliendo quel momento. E devo dire che per assurdo sono bravo con le parole che leggo e recitate, ma sono molto meno bravo a esprimere i miei sentimenti spiegandoli o con la foto? Trovandone delle parole. Con le foto mi riesce con le molto foto più semplice. Ecco, pensavo che stavi dicendo, invece sono meravigliose. Io vorrei che voi andaste veramente a respirarle fisicamente queste fotografie, perché sono proprio su Instagram sono aggiornate giornalmente, che Andrea Mete. E sul sito andreamete.com, che sono, beh, guardatele perché veramente sono delle foto bellissime. Io qualcosa l'ho esposta a casa mia, sembra una posta permanente. Devo di Andrea dire Mete. Che Pino è stato uno dei primi collezionisti. No, ma che sono belle, sì. Aspetto che tu stia poco bene per cercare di rivenderle. Ma insomma ancora... la prima cosa che mi ha detto è stata: adesso come ti aspettiamo senti? Solo la tua morte, perché sei una cosa carina, gli ho detto. Sì. Beh, come tutti i grandi avevo artisti. 22 anni, vi dico solo questo. 22 anni, questo è stato l'augurio di mio amico Pino Insieme. Esatto, queste sono le cose che uno ti persona augura. Che ha creduto in me, esatto. E poi non ha avuto esitazione nell'augurarsi la mia morte. Come tutti i grandi artisti, cioè, fosse uno che è morto vecchio, cioè Modigliani quanti anni aveva quando se n'è andato? Insomma. Beh, Modigliani ce n'avrà di 38, ma pure 40, qualcosa di meno. Sì, una cosa del genere. Per esempio artisti. Modigliani, uno dei miei film preferiti è I colori dell'anima. I colori dell'anima abbiamo sentito l'altro giorno, con che poi c'è solo la versione italiana, c'è anche la versione originale in DVD. Incredibile. Bellissimo. Con Andy Garcia, lei con questo collo davvero Massimo lungo, Lodolo così. Gli ha dato e la direzione è Marco Mete. Sì, e non perché signore, è tuo padre. No, è stato bravissimo. È un direttore, un professionista pazzesco. Veramente meraviglioso. È morto a 36 anni, mi dicono. Non tuo papà sta bene, sta a casa. Modigliani. No, 36 Modigliani. Anni. No. Gianna Puterna, 23-24. La sua, quelle sono storie. Beh, ma comunque è un momento meraviglioso quello. Per ecco, cominci. quello devo dire che è un momento che mi sarebbe piaciuto. I colori dell'anima. A Parigi lì con veramente tutti, cioè c'erano tutti in quel momento. All'inizio lei che dice: avete mai amato qualcuno così tanto da condannare voi stessi all'inferno? Io l'ho fatto. Comincia così, come colonna sonora pazzesca. Beh, ma poi l'Ave Maria mentre dipingono e fanno le ultime opere per il contest. L'ho messo dentro il mio Edgar Allan Poe. E finisce col pennello nella bottiglia di vino, che è come lui muore poi. purtroppo. Ah, bellissimo. Bellino, insomma, se vi capita, cercatelo, I colori dell'anima. Anche dopo Snowden, qui continua, ho tappato con lo scotch tutte le fotocamere. Più c'è il cellulare, aiuto, dice Giulia. Giuseppe dice: Pino Insegno sei il più forte, sono d'accordo con te. Vero. Sì, non, sì, posso, sì, non possiamo essere che apprezzare. Che non essere d'accordo. Ma come con fai a non essere d'accordo? Tra l'altro Giuseppe, quindi. Sì, per cui credo che me la sia mandata da solo. Forse sei tu. Esatto, va bene. C'è qualcuno che dice: ma ci sono delle domande scomode, avete no, domande? Per par condicio potevi mandare anche lo spot di Rocco su e vada a dire. Ma che c'entra? Ma che vuol dire? Che abbiamo nominato Rocco i droni. Ho capito, dai, ma per favore. Vabbè. Salutiamo anche Rocco Siffredi, un grande amico. Dottore, sono caduto e mi si è rotto il gomito e il drone. Ma è da ingessare il drone? È un osso delicato? No, il drone non è un osso delicato. Vabbè, ma vogliono scherzare, giocano. Mi fa piacere che sia come l'altro giorno ci hanno detto, sembra di assistere a una conversazione al bar fra amici. Ma infatti questo la verità è che la prossima trasmissione radio che voi dovrete fare tutti insieme, anche con Radio 24, questo credo sia un tavolo possibilmente utilizzabile. La prossima volta, se mi rinvitate, sì, io porto una bottiglia di vino da mangiare, sì, e facciamo una cena. E come finisce? Allora, come finisce non lo so, ma è divertente quello che riusciamo a dire dopo. Quello che riesci a dire dopo con una bottiglia di vino. E quello che ho detto riesci, infatti. Esatto. Quello che ho detto riesci. Abbiamo parlato del viaggio, abbiamo ancora 2 minuti e mezzo. Alessia Navarro, una delle autrici insieme a Mauro Megoni, ti ha scelto una poesia sul viaggio di Herman Hesse. Meravigliosa, tra l'altro. Ti racconta, in qualche modo, allora, con la giusta musica che Alessandro sceglierà fra le centinaia, ascolteremo questa breve poesia di Herman Hesse sul viaggio. Aver casa è bello. Dolce il sonno sotto il proprio tetto. Figli, giardino e cane. Ma ahimè, appena ti sei riposato dall'ultimo viaggio, già con le nuove lusinghe il mondo lontano ti insegue. Meglio è patire la nostalgia di casa e sotto l'altro cielo esser col proprio struggimento soli. Avere e riposare può soltanto l'uomo dal cuore tranquillo, mentre il viandante sopporta stenti e pene con sempre delusa speranza. Più facile, in vero, è ogni tormento del viaggio, più facile che trovar pace nella valle natia, dove tra le gioie e le cure ben note solo il saggio sa costruirsi la via. Per me è meglio cercare e mai trovare che legarmi stretto a quanto mi è vicino, perché su questa terra, anche nel bene, sarò sempre un ospite e mai un cittadino. Beh, ti racconta. Brividi. In qualche modo. Sì, infatti penso che me la porterò via. Sì, sì, sì, no, cioè, la copia la puoi prendere. Di fronte all'Africa di Herman Hesse, che è una poesia meravigliosa, insomma, davvero meravigliosa. No, ma... E devo dire che facendo tutti questi viaggi adesso, onor del vero, avere un figlio, avere una famiglia adesso con la donna che amo e col figlio che amo è un altro viaggio meraviglioso. Sono parole che ho sognato di sentirtele dire quando c'hai 17 anni. È vero. Non riuscivano a farsi una famiglia, neanche a farsi un'amica. No, nel senso, è vero. Viaggi, cose. Hai è messo vero. Ordine nella tua vita, mi fa piacere. Sì, tanto, sì, tanto. Sì, sì. Non o sei stato ordine, mai disordinato. No, nel senso, no, ma non sei stato mai disordinato. Più che messo ordine, ho trovato quello che mi piace, che a volte non è nemmeno ordinato, però è quello che mi piace, quindi... Telefonerò tua moglie adesso, alla fine di questo blocco c'è ancora, già raggiunto l'altra ospite, la sentiremo dalla sua viva voce. La grande Laura Lenghi. Lenghi verrà insieme a te o dopo, insomma possiamo anche lavorare insieme. Così sì. Sì, ma è certo. Bellissimo. Però senti tua moglie, che è straniera, no? Sì. Ecco, sì, i motivi si spiegano. A tra pochissimo, Boys Anatomy. Boys Anatomy. E dopo il traffico, ecco qua. Ma qui ancora continua a mandare. Oggi trasmissione particolarmente folle e ci piace così, dice Carlo. Sì, ma sapete, a me piace creare questa ordinata, questo ordine disordine nelle cose, che non è così disordinato. Ma le interviste portate a tavolino non sono mai... parliamo di questo, di quest'altro, cosa stai facendo, cosa hai fatto, cosa farai, eccetera eccetera, domande scontate per una risposta scontata. Se c'è un po' di emozione anche per entrare dentro l'ospite che hai in qualche modo, sì, e per farlo conoscere, anche perché qualcuno ti conosce ovviamente solo per la voce, qualcuno ti riconosce per le tue fotografie, ma magari non c'è mai l'uomo che mezzo a tutto questo esce fuori. Adesso chi non ti conosce andrà a cercare chi sei in qualche modo, anche perché nelle fotografie, se tu ti specchi nelle tue fotografie, si vede benissimo, si vede più nelle fotografie che se fossi tuo padre mi preoccuperei abbastanza, soprattutto per l'ultimo periodo che stai passando, di questi montaggi fotografici pazzeschi, belli, non si può dire niente. Va bene, che dice... qualcuno dice non puoi fare Romeo di Punto in Bianco, il mio cuore non regge addirittura. Dai. Abbiamo risposto adesso a la sorella di un ragazzo che mi ha scritto su Twitter. Cosa, dillo te, perché leggi tu, perché io Twitter non ce l'ho. Cioè ce l'ho ma non lo seguo, non mi seguo. Cioè, contraddizione in termini, ma non riesco a... Un ragazzo, Martash. Non so adesso il link, non so adesso come si legge tutto questo, ma dice non puoi fare Romeo Punto in Bianco, il mio cuore non regge, stai rispondendo a mia sorella e lei sta piangendo come una disperata. Allora speriamo di non farti piangere più, ma di farti sorridere rispondendoti. Va bene, no, ma forse mi capisco io prima di te. Ci ascoltiamo un altro, i Guardiani della Galassia, chi doppiavi? Chris Pratt. Che ho doppiato anche in Jurassic World. Un altro mazzo, pure questo fisicamente sta malino. Sì, pure lui sta particolarmente... Sono ragazzetti. Sì, però insomma i Guardiani della Galassia è molto divertente perché è un trash. Un'altra marvelata divertente. Sì, però sul trash, nel senso che sono dei supereroi un po' sul... È tipo Deadpool. Nel senso trash che sono, non sono i classici supereroi, nel senso che sono... A me personalmente sono più divertenti, cioè per me sono... Perché fanno impazzire. Deadpool è un film meraviglioso. Anche Deadpool. Pazzesco. Però nel senso lui che canta, lui che non sono, sono un po' goffi. Sono anni dei 70, supereroi, le colonne sonora. Sì, insomma, sono dei supereroi di quel tipo. Lui chi è nei supereroi? Che cosa fa? Che poteri ha in questo gruppo lui? Ma, non si hanno poteri questi. Ma sì. Lui ha non dei, paga le tasse. Non, lui ha questo superpotere. Riesce a non pagare. Star-Lord. Lui si chiama Star-Lord, ha questi occhiali rossi che nel nuovo film si vedranno di più. Abbiamo anche cantato nel primo film. Nel secondo non puoi parlare, ricorda, dei film devo ancora uscire. Nel primo film. Dice Rachele, il primo film della Marvel ad aver avuto 100 milioni. Ah, il voto perfetto, dai, in previsione. Vedi, sì. Vedi, evidentemente appunto per questo, perché c'era bisogno di alcuni supereroi che si avvicinavano alle persone normali. Esatto. Perché questo è esattamente. Coi difetti. Coi difetti dell'uomo, nel senso non è un... L'antieroe. Sì, l'antieroe, un eroe. Com'era, come si chiamava? Kick-Ass, com'erano quei supereroi di Kick-Ass. Sì. Però questi sono più interessanti. Sì, chiaramente. E Deadpool, film, secondo me, Deadpool, su tutti. Sì. Ma infatti ha avuto la nomination all'Oscar. Deadpool. Ma sì, è pazzesco. Sì. È veramente bello. Doppiato anche molto bene, sì. Devo dire. Sì. E allora sentiamoci un pezzo dei Guardiani della Galassia. Oh! Donna, le tue parole sono aria per me. Ehi. Porco cacchio. Se il tuo unico obiettivo è uccidere Ronan, non credo che questo sia il modo migliore per farlo. Tu non sei quello che questa squadrina ha provato a uccidere. Beh, lei non è mica la prima donna che ha cercato di farlo. Guarda, questo me l'ha fatto una gran bella topa Rajak. Mi ha pugnalato con una forchetta perché me la sono svignata all'alba. E qui una ragazza Cree ha tentato di strapparmi via il torace. Mi ha beccato con una scavariana magrolina della Nova Records. Cercavo di ottenere informazioni. Hai mai visto una scavariana? Hanno tentacoli e aghi al posto dei denti. Io non faccio caso a certe cose, però se... Non ti importa. Ma è quel punto. Lei ha tradito Ronan. Lui sta tornando per lei. E una volta qui, sarà allora che tu... Perché dovrei mettere il mio dito sulla sua gola? Cosa? Oh no, è un simbolo, è simbolico. Significa... Gli taglierei la gola. Non gli taglierei la gola. Gli muzzerei di netto la testa. È un'espressione che significa uccidere qualcuno. Tu l'hai sentita, l'hai visto fare, giusto? Sai che vuol dire? Sì, lo sanno tutti. No. Lo sai che somigli sempre più a tuo padre? Come... È un onore sentirlo e ne sono felice perché è uno dei miei doppiatori preferiti. Quindi... Certo. Va detto. No, è bella questa. Senti, tu hai fatto, ecco, proprio tornando alla fotografia. nella Grande Mela ti sei a New York, ovviamente, hai fatto fotografia di moda, modelle, eccetera? No, nel senso no, la New York, a New York erano sì, di reportage, nel senso la mostra era, si chiamava Young Guys, e ho chiesto a dei bambini, ho fatto delle foto di reportage in giro per il mondo. Ho chiesto a dei bambini di una onlus in Guatemala che si chiamava Sulla Strada, e a una scuola, se non mi ricordo male, che era lo Chateaubriand francese, quindi bambini occidentali tra gli 8 e i 10 anni, mi ricordo, che è successo quando avevo 20 anni, quindi più o meno 10, 9, 10 anni fa. E l'abbiamo fatta al Chelsea Art Museum. Ho chiesto a questi bambini di disegnare quello che loro sentivano vedendo le foto. E da in Guatemala questi bambini hanno disegnato delle cose completamente diverse da quelle che avevano disegnato quei bambini della scuola francese occidentali. Certo. E abbiamo esposto su un muro le contrapposizioni di quello che i bambini vedevano nei loro pochi anni di vita e quello che loro sentivano vedendo le mie foto, ed è stato super emozionante. Super emozionante. Si chiamava Young Guys. Questo è Picture Anatomy, che è un'altra trasmissione, uno spin-off di questa trasmissione. Che stai doppiando adesso, puoi dirlo? Sì, sì, puoi dire, senza raccontare la trama, insomma, perché altrimenti. Collegandoci dalle foto al doppiaggio, nel senso che la voce viene da dentro, dal nostro le voci cuore. Di dentro qualcuno le voci scritto. Di dentro l'hanno scritto qualcuno, un De Filippo mi sembra, un esattamente, Edoardo. È esattamente questo, quindi adesso per esempio adesso ho doppiato Pets, Sing, La La Land, che ho doppiato John Legend. Ah, John Legend. John Legend. John Legend, doppiare John Legend, come per me hanno doppiato Ray Charles. I Guardiani della Galassia 2, Point Break, che era uscito, The Walk, 24 Legacy, che è la nuova serie che sta uscendo. Ah, c'è il nuovo ragazzo al posto di Kiefer Sutherland. Sì, un ragazzo nero. Me l'hanno sostituito, sì. No, io sono affezionato a Kiefer. Sì, sì, sì, sì, sì, è un ragazzo di colore che è molto bravo, tra l'altro è una non, come si chiama? È Legacy, non so se è uno spin-off o un, sì, non so un, come si chiama. Non so, sì, sì, è una nuova serie, di, sì, una nuova la nuova serie. Serie di, invece di Sleepy Hollow, è finito purtroppo per me Walking Dead. È finito Walking Dead? No, ah, per sei me, morto? Sono morto. Tu chi eri? Glenn. Lì? Il coreano. Ho capito. Prima o poi doveva morire. Se poteva dire, se sì, non è che è già morto. Purtroppo sì, ci sono stati funerali vari. Povero Glenn. Se n'è andato. Quantico, la nuova serie. Travelers, che è una nuova serie su Netflix. Aquarius, dove doppio. C'è tempo per fare una fotografia fra un turno e l'altro? Tra un turno e l'altro sì, tra un turno e l'altro sì. Adesso ho doppiato La Bella e la Bestia con la direzione di Fiamma Izzo. Ah, il film è quello con gli uomini sì. In carne ed ossa. Sì, sì, sì. Tu dopo fai la bestia. La bestia. Fai la bestia. Sì. E il finale, cioè quando lui è bestia la voce è particolare. Beh, tutto il film c'è un plugin che ci hanno aggiunto, però molto molto molto naturale. Molto naturale, che hanno aggiunto la voce, e poi siccome il film, alla fine c'è la mia voce per una mini scena che cantano, canti pure tu, ma non sei tu a cantare. Credo che lui abbia una canzone ed era una canzone lirica che non è particolare. Che non era il caso che io cantassi, nel senso canto per tante altre tu serie, canti, ma sì. In quel film in particolare no. No, no, non perché è facile. Perché era una cosa davvero tecnica. Molto tecnica, come quando, che ne so, viene uno e dice posso fare doppiaggio e una bella voce. No, esatto. Non è esattamente questo no. L'iter. Anch'io ho una bella voce, canto canzoni per serie, per film. Questa era una canzone che era... No, no, ci vuole un'impostazione vera lirica. Ci vuole veramente un'impostazione. L'ho detto già in un'altra puntata di Cose Nate, quando è capitato a me a Pocahontas che dovevo cantare, ho fatto il provino con gli americani e mi hanno soprannominato Pocahontas e l'hanno tolto. Per cui fortunatamente poi l'hanno tolta anche nel film. Fortunatamente. Sì, ma che insomma è impossibile. Però comunque se volete noi cantiamo. Sì, qualcosa no, ci abbiamo delle su Twitter e noi facciamo delle segreterie telefoniche. Cantate. Certo, ci abbiamo una radio dei quartiere che noi facciamo delle cose a dedica adesso, no? Insomma, guarda, cioè, vabbè. Pino lo fa, so che potete sì. E io per arrotondare tutto faccio quando esco da qui. Dai. Beh, comunque dopo aver fatto Ice Age, che era l'era glaciale, ve lo fa con la voce? Sì, che, no, però non cantava. Ciao piccolo, bubu, No, meraviglia. Sono cantato nel... I Guardiani della Galassia, tra l'altro con la direzione di Marco Guadagno come Ice Age, sbaglio. Come sì, nel, sì, come Marco poi dirige tutta la Marvel, sì, Iron sì, Man sì, e tutto. Sì, sì, sì. Facessi un supereroe, c'è un supereroe che ha 50 anni là dentro. No, uno. No. Super prostata, non c'è. No, c'erano negli X-Men. Però era quello, come si chiama? No, Ian McKellen sì, che fa Ian McKellen, il professore, sì. Ma ha 70. Beh, vabbè, però no, ma che dai? Tutto adesso non ti mettere limiti. Caro Pino, la mia ragazza è felice come non mai. Poi ho scoperto che avevo un doppiatore. Luca. Dipende in che momenti, Luca. Beh, dipende, dico. Guarda, credo possiamo fare anche questo. Adesso mettiamo un microfono nelle camere, sì, da letto. No, io poi lo sapete, l'ho raccontato con che tipo di film ho cominciato, per cui sono veramente bravo. Film per bambini. Sì, certo, Rossi Rossi, per cui sono bravissimo a fingere, assolutamente, come le donne. Ma questo è un altro discorso. Senti, ci ha raggiunto, adesso facciamo una telefonata a una grandissima attrice che sta andando in scena, che è Yaya Forte. Bravissima, sì. E nel frattempo chiamiamo anche in sala, perché questa è una sala, la bravissima seconda ospite della giornata, un'altra attrice, doppiatrice meravigliosa, che è Laura Lenghi. Poi meravigliosa. Ti racconto, sì, cosa ha doppiato, credo abbia doppiato anche vostra moglie senza che voi ne siete accorti. Veramente qualsiasi cosa. Eccola, puoi entrare Laura, se si sentirà un rumore, ma la porta è di quelle... Quello è il tuo microfono, bella come non mai, silenziosa come non mai. È vero. Quando ci ha detto l'età adesso siamo sbiancati. Sì, è vero. Perché devo dire la verità, sì. Sembri più anziano. Tu sembri il padre di Laura. Io sembro il padre di Laura. Sì, tu sembri il padre di Laura e Laura invece... Tra l'altro ormai purtroppo con internet tutti sanno la tua età. Puoi mettere... Ho cercato di cancellarla. Su Wikipedia puoi intervenire. Su Wikipedia puoi. Ma non c'è stato modo. È Antonio Genna che mi mette l'anno. Ma non lo mette solo, lo mettono dappertutto, anche il segno zodiacale, insomma. Tu di che anno sei? Tot. E di che segno sei? Toro. Ah, quello l'ha detto pieno. Toro, beh, ascendente... E pesci. Come te. Come me. Vuol dire che? Non si sa. Non lo so, non però niente. Si vede. Sì, si sente dalle branchie. Sì, ma smettila, dai. Va bene, allora noi andiamo un attimo, come sempre, in pubblicità e poi riprendiamo la nostra bella trasmissione, almeno per quanto ci riguarda e per quello che voi ci raccontate ogni giorno, visti i podcast scaricati e quante centinaia di migliaia. No, perché siamo intorno ai 200.000, sono un po' uno allargarsi più. Centinaia di migliaia. Mi piace molto in una giornata così difficile, perché visto che c'è lo sport, questa è una buonissima alternativa. E poi andiamo sullo sport, il nostro amico Capuano Pardo con tutti i convocati. Oggi sono tranquillo perché gioco domani, per cui i risultati... Quindi sei tranquillo. Sì, tranquillo, domani sarò agitato. Va bene, a tra poco con Voice Anatomy e la nuova entrata Laura Lenghi, e continua a stare con noi l'amico Mete Andrea. Ascolto Gianluca perché sei solo chiacchiere distintive. Perché non lo si può vedere. Perché è uno specchio deformante. Fa ridere ma fa anche riflettere. Ascolto Gianluca perché mutano le case, mutano le cose, mutano le mele d'arenetta deliziose. Muta questa vita, ma ancora in cosa non si sa. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, 15:31, prima ormai 32 minuti. Abbiamo la telefonica, la diretta con la bravissima Yaya Forte. Pronto, Yaya? Ciao Pino, che grazie, bello sentirti. Ma che grazie a te. Ti abbiamo preso, so che stai debuttando, hai già debuttato. Dove sei in questo momento? A Napoli? Dove sei, Yaya? Sono a Napoli, oggi faccio l'ultima replica, e da mercoledì a Milano, poi a Torino, con appunto Hanno Tutti la seconda parte dello spettacolo di Sorrentino, tratto dal libro Hanno Tutti Ragione, Tony, sì, Pagoda ritorna in Italia. Che poi io lo so, perché insomma, a parte aver letto, ma è difficile, è uno spettacolo complicatissimo, nel senso, tu fai un ragazzaccio. Faccio proprio un maschiaccio terribile, che ne fa di tutti i colori, ma molto simpatico, perché Pagoda è appunto un parto della mente di Sorrentino, e come tutti i suoi scritti e i suoi film sono personaggi veramente notevoli per complessità e simpatia. Ma poi Paolo non dorme mai praticamente, perché mentre gira The Young Pope scrive il libro, esce uno spettacolo teatrale, ed è una persona veramente... Fa fare pure le pizze. Le fa? Cioè, sì, napoletano, cioè, gioca, lui, calcio, gioca a calcio. Beh, l'uomo in più. Veramente ammiro un uomo rinascimentale proprio. Sì, solamente gli uomini rinascimentali morivano a 29 anni, perché insomma c'era una media di vita molto bassa da lui. No, è veramente bravo. È una persona che ho sfiorato una volta in una cena, devo dire, disponibile, carino, intelligente, brillante, come tutti i grandi. Non c'è niente da dire, i grandi sono così. E Paolo è veramente... Com'è nato questo rapporto con Paolo, Yaya? Io lo conosco immagino. Da un sacco di tempo perché quando l'ho conosciuto quando ho fatto i film di Corsicato, era più giovane e faceva l'assistente alla regia in Barisa e lavorava a Teatro Uniti, che era questo gruppo con cui ho lavorato io, per cui lo conosco da moltissimo tempo. E poi quando ho avuto il premio Viareggio per il libro Hanno Tutti Ragione, mi ha chiesto di andare a leggere, in occasione della consegna del premio, due capitoli del libro. Li ho letti in pubblico, gli ho chiesto immediatamente di poterlo fare a teatro, perché mi sembrava una materia profondamente teatrale. E lui, che è più pazzo di me, ha detto fallo, per cui ho deciso di fare questo spettacolo in cui appunto faccio questo Tony Pagoda, che è un maschiaccio però anche molto romantico, per cui non è solo un gioco, insomma. Sì, non è un entravestì, insomma, non stai facendo il trans in scena, insomma, non è così, è molto intenso come. Io volevo leggere quello che tu hai scritto per la storia di questa, mi piace molto, ma lo faccio leggere a Laura Lenghi, che è una bravissima attrice, doppiatrice. Tanto mi piace quest'ultima cosa, quando spieghi che cosa succede a Pagoda da passata la mezzanotte fino alla fine. Sentiamo un po' che succede in questo. Mi sono spostato al microfono da qui. Laura è la voce di Jennifer Gardner, di Harry Shonk, insomma, vabbè. Vai. Passata la mezzanotte, Pagoda si ritrova in un sordido ristorante con la sua curista a impartire lezioni sulla seduzione, compito che si fa più articolato quando non si è belli, e dopo una serie di avventure al limite del surreale finirà per decidere di abbandonare la carriera di cantante e di reinventarsi una vita in Sud America. Tra fiumi di champagne, delusioni amorose, battute fulminanti e riflessioni malinconiche, l'ironia e la complessità di questo personaggio si delineano con ulteriori sfaccettature, regalandoci perle di saggezza e una disperata, calda vitalità. Mi rivolgo a voi, a quelli che, come me, bellissimi non lo sono mai stati. Quelli, insomma, che non è che una... quelli insomma che non è che una passa e vi muore dietro, magari non vi nota neanche, e allora è palese, resta una sola e unica arma nel vostro bagaglio, ma un'arma che può essere possente e smisurata e può smuovere le montagne, la parola e quindi il teatro. Ecco, questo ti racconta, no, Iaia? Sì, sì, che poi lo strumento, perché appunto Sorrentino anche nei film, una delle sue doti secondo me più evidenti è proprio la capacità di scrittura, una scrittura sarcastica, complessa, ma mai moralista, imprevedibile proprio nelle situazioni, se pensi a Young Pope, esatto. che ho adorato. Sì, che non c'è, non è blasfemo, non è, ma è interessante, è intelligente, no, cambia le regole del gioco. La vita, il bene, il male, l'imprevedibilità, le cose sono misteriose e mai bidimensionali, e poi ha una capacità di avere una lingua che è profondamente teatrale, che immediatamente è una lingua che arriva al pubblico come lingua inventata e reale contemporaneamente, per cui è insomma è notevole la sua capacità di scrittore. Senti, dove sei? Teatro a Napoli? Dove, quale teatro sei in questo momento? All'ultima replica. Teatro Bellini, che è un teatro molto vivace, molto vivo, funziona benissimo, sono dei ragazzi molto bravi, in contemporanea con Tony Servillo, che io ho debuttato con Tony Servillo, perché c'è una doppia sala, in una recita lui, in una recito io, quindi in una situazione protetta e familiare. L'imbarazzo della scelta, faranno a testa o croce, vabbè, riempiranno tutte e due le sale, dai, su, Tony da una parte, tu dall'altra, è un bel dovete fare i spettacoli come a te, al cinema a questo punto, dalle 15.30 alle 17.30 fai te, 17.30 17.30 fa Tony, 19.30 21.30 fai tu, dovete fare così per dare possibilità alla gente, con un unico biglietto, pagando magari una cosa più ragionevole, uno riesce a vedere tutti e due gli spettacoli. Non è male, Andrea, no? Ma poi era successa pure quella cosa, non sbaglio, quel signore col cellulare, no? Mi ricordo che c'è stata... Sì, c'è stata una polemica 6-7 giorni fa. Dove? Che Servillo ha redarguito un signore col cellulare, ha detto qua siamo a teatro, non siamo in televisione, siamo persone vere, quindi spegnete i cellulari, ed si è scatenato, tutti i giornali hanno riportato questa... questa notizia. Qui capisco la differenza fra me e Tony Servillo. Mi è successo l'altra settimana in Sicilia, ne ha parlato manco quello del palazzo di fronte, eppure c'erano 19. Hai fatto la stessa cosa? Sì, ma stavamo facendo con mia moglie Frankie e Johnny Paura da mare, tratta dal film, film, no? Meraviglioso, divertente, romantico, il momento più drammatico. Cioè, ma beh, non te, dico, me fermo, non me fermo, se me fermo distruggo il crescendo che c'è stato. Ma siccome a me piace Gabriele Lavia in tutte le sue manifestazioni, e lui si ferma sempre ed è, certo, meraviglioso, mi sono fermato. Ma hai detto qualcosa pure? Sì, ho detto qualsiasi cosa, cioè, ho detto qualsiasi cosa, ma non parolacce, iaia, ho detto cose carine che hanno provocato l'ilarità generale. Spero sia importante. No, sì, no, me lo passi, ci parlo io, sono un doppiatore, cambio voce, è sua moglie, è sicuro che è sua moglie, chiami prima a casa prima di tornare, ti ha detto delle cose brutte, cioè delle cose brutte, visto, ma carine. Io Tony Servillo l'ho visto una o due volte, non... un po' mi hai buttato il cellulare, incute terrore ogni tanto. Beh sì. Ma pure Iaia non scherza, poi se fa sto ragazzaccio non te crede che Iaia è da Tony Pagoda. Ah, è giusto. Esatto. Tony Pagoda si chiama Forte, si chiama Forte di cognome, cioè ci capisci. Poi da te Tony Pagoda si è fatto un tirino in più, fa ancora più paura. Ecco. Ecco. Ma a me, guarda, e poi casomai se tu non dovessi farcela, perché è grosso, lo mandi dell'altra, l'altra sala da Servillo, che... perché sta vicino, gli fai menare da lui, insomma. Non gliela manda a dire lui. Cioè, no, ma può essere una collaborazione, una joint venture molto interessante, un co-marketing, un co-branding. È incredibile, perché quella sala ci deve essere stati tutti i giornalisti del mondo. Come è successo? Vabbè, fatto di Servillo crea un po' di eco, come veramente IA, ovunque, insomma, come dice, no? Lei, è stato... Sì, è stato super pubblicizzata questa cosa. Che questo è buono, perché ha pubblicizzato pure il vostro teatro. Sì, no, ho capito, c'è gente che va al telefono, ma che pubblicità è? Ha rimarcato l'idea che appunto il teatro ci sono, cioè, no, c'è questa ignoranza di base, bisogna fruirne in maniera diversa. No, è pazzesco, il mezzo cellulare dici spegno, anche perché interviene sui microfoni, se tu c'hai i microfoni, sull'effetto stereo, sull'impianto, insomma, non capisco. Su internet c'è un a me video. Dà quasi più fastidio, non so te, Iaia, i colpi di tosse, ora, senza nulla togliere. I colpi di tosse sono un incubo. Ma io non capivo perché vengono tutti, no, ma cioè, c'è il teatro ufficiale, quello c'è uno che è pagato. Ma perché? C'è uno che è pagato per la tosse in tutti gli spettacoli. Io dico, è proibito tossire. Ve faccio fare l'aerosol prima d'entrare. Ve faccio no, quello ancora più tremendo a volte quando senti quelle caramelle proprio con quella carta. Esatto. Fammi una foto, fanno squilla a casa, ma non te prego, non me tossi nel momento in cui dici essere o ma non essere. Ma ti toglie concentrazione? Questo è il problema, non lo riprendo. A te toglie concentrazione? Sì. Te la toglie, a me? Sì. Beh, certo, comunque c'è sempre una dimensione illusoria in teatro. Se senti una cosa così reale, comunque sia come spettatore che come attore, sei portato a spostarti, è infastidente. Sì. Sì, devi ricostruire tu, a teatro devi far respirare insieme a te la gente, devi far battere il tuo cuore insieme a quello loro per portarli in questa dimensione. Non è uno spettacolo comico per cui senti le risate e gli applausi, è uno spettacolo che è una sinusoide di emozioni, per cui te ne puoi perdere qualcuna per strada, no, e te, come attore, essendo un uomo o una donna, in questo caso tu sei una donna che fa un uomo, un disastro, un disastro vero, per cui non si sa con quale parte reagisci, se quella di Tony Pagoda o quella di Iaia Forte, che poi tu devi essere pure bella, una forte anche fisicamente, sei gagliarda, Iaia, riconosco, per cui non lo so. Per cui adesso Bellini, poi da domani, dopodomani o meno, quando debutti a Milano? Mercoledì 11 al Teatro IA a Milano, fino a lunedì 20, e poi a Torino al Teatro Gobetti fino al 26 febbraio. E poi ed è appunto la seconda parte, perché ho fatto già un lavoro in cui lui, Tony Pagoda, suonava a New York davanti, esatto, a Sinatra, a Radio City Music Hall, sì. E invece questo secondo episodio inizia col suo concerto ad Ascoli Piceno. Un'altra cosa, proprio, un'altra dimensione. Da Radio City Music Hall ad Ascoli Piceno. Come dice Pagoda, è una porcata che non mi meritavo, la Radio City Music Hall. Ma a proposito di Voice Anatomy, con che voce la dice? Qual è la tua voce che utilizzi? Perché siamo proprio... Ecco, questa qua, praticamente parlo così. Sì, in effetti, senti, c'è una voce timbrata... Sì. Niente male, può fare un ometto, lo può fare, Iaia. Se la chiami la mattina presto, secondo me dici: mi passi tua sorella per favore? E invece dice: no, sono veramente io. Sono io. Chi lo vuole sapere? Non chiamate Iaia la mattina, non vi prego, anche che un attore recita fino a tardi. Per cui oggi pomeridiana, immagino, no? Oggi pomeridiana, ma una pomeridiana light alle 18:30, per cui... Così tardi comincia da voi, lì a Napoli? A Napoli purtroppo sì, perché sono comodissime quelle pomeridiane di 15:30 per ritorno a casa. 18:30 è proprio intorno ai 18, come a Roma, cioè lo spettacolo è intorno alle 9. Poi sono qua ritmi nordafricani, esatto, diciamo, per cui... esatto. Con molta tranquillità, perché siamo convinti che ci aspettano. Io ho il biglietto, sì, ma aspettano. Questo è il dramma del teatro in Italia. Vai ogni a Londra. Ogni volta che sono arrivato alle 9, uno spettacolo è sempre... sempre iniziato alle 9:30. Sì, sì, no, ma sì, è così, perché poi l'attore è già dietro, che Yaya sta lì. Cioè, ovvio, sta lì sicuramente dalle 4:30. È lì. Sì. Comunque, Yaya, ti abbraccio forte. Ti abbraccio io, grazie. Buttiamo il cellulare se andiamo a teatro a vedere Yaya. Vi ricordo questo Tony Pagoda, Ritorno in Italia. Va bene, stasera l'ultima, ovviamente lì a Napoli al Bellini, ma poi Milano e subito dopo Torino. E poi ti fermi un attimo, oppure ma cinema. Mi fermo e poi riprendo lo spettacolo di Martone, La morte di D'Antonio. No. Che fai D'Antonio, te meno? No, basta, ti prego. No, Robespierre. Fai Robespierre, sì, vabbè. No, scrivi Paolo Sorrentino, sei in ascolto. Mi scrivi la storia di Antonella Mariangeli, per favore, una cosa. Questa mi perde la dimensione. Per favore. Yaya forte, non cambiare nome, ti prego, resta così, resta dorata. Complimenti. Yaya, tanta merda, in bocca al lupo per questa bella avventura. Grazie a tutti voi, baci. Un abbraccio, baci, forte a Tony Servillo, digli che lo amiamo, che non useremo mai il telefono anche per chiamare da fuori il teatro. Però lo tagliamo. Gli mando un SMS. Ecco, durante lo spettacolo, mandi. Sono Yaya, è finita. Tutto bene, Liscia, a te. Pensa che viene dall'altra parte e ti gonfia in diretta da noi giornali, pure Paraglia ti denomina. Va bene, ciao Yaya, stai bene. Ciao, un bacione. Buon tutto, ciao, ciao tesoro. Va bene, noi ci fermiamo. Questa è la pausa lunga? No, è quella dopo, vero? La pausa del GR, non del TG. Ho imparato tante cose. A tra pochissimo con i nostri amici attori, doppiatori insieme, qui per voi. Voi sanatomi, a tra poco. Sanatomi. Eccoci subito di ritorno dopo il traffico, 15:45, quasi 46. Caro Pino, ma sei tu che doppi la De Filippi? Ma dai, Mario. No, De Filippi ha una voce bassa, bassa. Io da bambina facevo solo maschi. Sì, perché tu hai avuto sempre una voce pesante. Ma adesso no, adesso mi si è alleggerita un pochetto. Al contrario. Al contrario. Sì, ma perché io poi... torno indietro, no? Hai visto? Io senza voglio... rughe. È vero, ma sta benissimo. Non è video, è solo radio ed è giusto che sia così. Io voglio sentirmi un attimo la voce però di la mia cara collega e amica Laura Linghi in un film che... straordinario, che Million Dollar Baby è difficile, perché Million Dollar Baby Hilary Swank, cioè, capito? Sì, sì. No, capisco. Tu l'hai sempre doppiata? No. No, però spesso. No, io ogni tanto mi capita. In genere le inizio. Okay. Quasi tutte. Lo startup è tuo. Sì, quando non, vabbè, non le vogliamo conosce rubare, nessuno. Si sono alternate delle colleghe dopo... qui che insomma lo dicono tranquillamente. Uno sì, fa sì, una cosa, l'altra continua. Insomma, c'è un ping pong. Io però anche... le inizio in genere, tu le... cioè le sgrezzo. Però tu hai vinto lo... Chi da fa? Boys Don't Cry non l'hai fatto tu? No. No. Però hai fatto Million Dollar Baby. Million Dollar Baby l'ho fatto io. Uno dei suoi film forse il migliore, secondo me. Dai, perché poi ne ha fatti altri 12 dopo, ma nessuno li ha visti. Sì. Perché poi dopo due Oscar ma la stessa vita, il racconto, cioè, della mia vita. Lei se li deve produrre adesso i film, non certo, credo che li, la facciano più lavorare. È quello che mi è successo perché, a me. Già donna. Ah, è vero. Succedono queste cose è qui. È brava. Lo so. Ah, pure Brad Pitt ormai si riproduce. Sì, noi, io, siamo io, Brad Pitt e Barry White, che ormai è giusto, è vero. White. Ma che discorsi sono? È vero però. No, non è così, si producono da soli. Vabbè, facciamo pure noi, ma costano molto meno. Mi stai facendo vedere il sito di Robbie Williams, sei morto. Ah, di Costanzo, perché ha baciato la De Filippi. Robbie Williams, sei morto. Bobby Williams. Che parla... Sembra un po' Aldo Fabrizi, perché è un modo... Anch'io con un Million Dollar Baby ho parlato un po' con te. Come hai parlato così? Quando? Perché avevo il paradenti. Ha capito, io pure quando ho doppiato Alice ho il paradenti, ma ho tolto. No, io poi gli avevo detto, ma perché scusate, se mettiamo un chewing gum, esatto, non così, è la tetta cota. Ma... No, ma no, col paradenti non si capiva niente, io ho provato a farlo a lì. Mentre lui combatte, certo, ma col vero, paradenti, ma ha portato, no, fiammessa, gli... sapete quanto è precisa, sì, su queste cose. Ma tu l'hai pugno, fatto pure, prendere la forma. Certo, nell'acqua, poi in bocca, ammorbidito, siamo stati un'ora a masticare quel fare in bocca. E io poi... ci sono riuscita però. No, perché poi parlavo però... Cioè, non era possibile, per cui si può io fingere. Io ce l'ho fatta, mi hanno messo anche il collare. Il collare di cosa? Cioè, adesso lascia stare. Ma è fetish il film. Cioè, il paradenti e il collare. Ma il collare quale? Perché cosa il collare? Lascia stare. No, no, perché... lo dico, avevo un collare. Avevo, lo dico. Ma fate sfumature lei. No, per carità, possiamo. È un film già troppo famoso. Sì, quello. Sì, troppo. Ah, ho capito. Vabbè, ascoltiamoci un momento. C'è il collare in questo momento con la dentiera? No, spero di no, insomma. No, no, lo no. Shonk non ce l'aveva. Shonk, vero? Non lo so. Andiamo bene. Prima che Gordon Bobby Williams. Stiamo peggio noi. Va bene, ascoltiamo una Laura Linghi dannata, ma non dannata tutto attaccato, ma è diapositivo nata, la bravissima Neil Schoen, che è questo film meraviglioso che è Million Dollar Baby. Quanti anni compie? Compio 32 anni, signor Dan. E festeggio il fatto che ho passato l'ennesimo anno a lavare i piatti e a fare la cameriera, cosa che faccio dall'età di 13 anni. E secondo lei dovrò compierne 37 prima di diventare un pugile decente. E dato che è un mese che pugna questo sacco veloce senza risultati, comincio a rendermi conto della verità. L'altra verità è che mio fratello sta in galera. Mia sorella truffa la previdenza sociale fingendo che suo figlio sia ancora vivo. Mio padre è morto e mia madre pesa oltre 140 kg. E se dovessi ragionare a mente fredda, dovrei tornare a casa, trovare una roulotte usata, comprarmi una friggitrice e dei biscotti. Il problema è che mi sento bene soltanto quando mi alleno. Se sono troppo vecchia, allora non mi resta niente. Le basta come spiegazione? È il tuo nuovo sacco veloce? Il suo è dietro al bancone, vorrei poter dire di averlo consumato. Aspetta un secondo, solo un secondo. Ti farò vedere un paio di trucchetti e poi ti cercheremo un allenatore. No, lasci stare. Vuoi anche dettare tu le condizioni? Sì, signore. Perché so che se sarà lei ad allenarmi diventerò una campionessa. L'ho visto come mi guarda. Sì, con pietà. Non mi dica così. Non deve dirmi così se non è la verità. Io voglio un allenatore. Non voglio l'elemosina e non voglio che mi faccia favori. Allora, questo è un pezzo molto lungo e molto bello. Stavamo parlando con Laura che sembra accelerato. È accelerato, ma non per colpa nostra, perché purtroppo si doppia a 24 fotogrammi al cinema, poi quando va su certe piattaforme, certe situazioni, va a 25 fotogrammi, perché i DVD generalmente sono 25 fotogrammi, per cui uno sembra Paperino. Io pure Aragorn sembra Paperino. State fermi, restate lei, fermi. Lei fa Paperina. Io faccio Paperina. Tu doppi Paperina. Com'è la voce Paperina? Dopo ti leggo una cosa. Ah, Paperina okay, col okay, collare. Okay. No, Paperina fetish, ci denuncia la Disney, vi prego. No, sì, no. Sì, ma la facciamo così. Sì, eh? Sì, non solo. Ah, la facciamo. No, ma ho capito. Poi per te. Che ci portiamo questa cosa? Ho capito, ma poi per te la Disney finisce qui. Ci parli tu. No, con no, pille, no, poi. No, no, dai, lui è uno simpatico. Ciao Roberto. Assolutamente sì. Senti tesoro mio, allora io volevo leggere qualcosa. Jennifer Garner è un'attrice che io ho amato moltissimo in Alias. Hai fatto tu Alias? Giusto? Alias sì. Alias. Tutto Alias l'ho fatto io. Sì, e no, vai. Non diremo. Poi se diciamo il nome di un altro film che non hai fatto tu, diremo che magari è stata Laura Boccanera. Faremo il nome delle persone. Io sì, sono riuscito a dire a Will Smith a Sanremo che c'avevo tre minuti perché stava facendo un pezzo di Ali. Ho detto sì, ti ho doppiato io qui, ma tutti gli altri film è Sandra Cerbo. Io sono riuscito a dirlo anche in diretta pur di salvaguardare la professionalità dei miei colleghi, per cui non ci stiamo accaparrando. No, no, tutto Alias l'ho fatto io. Chi l'ha diretto Million Dollar Baby? E Marco Guadagno. Tutto Marco Guadagno, perché lei era sempre Marvel. Ero Marvel, no. Perché combattevo, perché io in genere faccio quelle che menano. Sì, eh. Ma che Xena hai fatto, non lei. E, no, tanto mena lo stesso però. Esatto, la bionda che faccio picchia. Faccio anche Walking Dead. Olimpia. Sì, Olimpia. Il nome mi piace molto. Xena è una serie meravigliosa, era. Xena e Hercules erano una delle prime serie che andavano con gli stessi attori. Bellissimo. Sì, io... È durata tantissimo. No, vi chiedo scusa, ma sicuramente i nostri radioascoltatori l'hanno amato. Sì, abbiamo Xena. Offerto, sì. Kevin Sorbo era lui. Hercules. Kevin Sorbo. Sì, va bene. E... sentiamo un momento di Xena. L'abbiamo? Abbiamo anche sì. Xena? Vabbè, sentiamocela Xena. Che non ha doppiato lei, però. No, c'è la scena lei d'amore. Doppiato Olimpia. Avete preso la fra scena. Chi? Non è che puoi scegliere fra tutte le cose, scaricare qualsiasi cosa. Sì, è quello che ci offre. Però è una delle scene sì, ma... più famose. Sì, ma magari non è scaricabile, non è affrontabile, capito? Cioè, non possiamo prendere tutto il film e prendere la scena d'amore di Xena. Vabbè. Ci hanno fatto 386 puntate. Vai a cercare la scena d'amore. Verso la fine della terza serie. È quella la scena. No, non la cerca. No, intanto mandiamo Xena che abbiamo. Non so che scena è. però sentiamo questa. Prego. Questo è per te. Per favore, io non voglio nessuna ricompensa. Mi accontenterò di restituire un po' di tranquillità al vostro villaggio con l'aiuto dei titani, naturalmente. Già, non intendo fermarmi qui, no. Porterò con me i titani in giro per il mondo. Risolveremo i problemi dell'umanità dovunque andremo. Può cominciare una nuova era di speranza e di pace. Sì, cominceremo distruggendo gli accampamenti e le armi e... Ti diverti? Quel titano. Senti, invece non aveva voglia di... Eccolo qui, eccolo qui, dimmi. Tanto la velocità dei telefilm è 25, nel senso che doppi in quella velocità che poi va in televisione, per cui mantiene la voce. Mantiene la voce. Adesso stanno cercando di fare la stessa cosa anche i DVD nei Blu-ray, si sente bene. Devo dire, perché mi fa ridere questo film, il director's cut dura 7 minuti in più, ma poi si mangia il fatto che va più veloce. Una delle cose più assurde che uno non sa è quando ti compri un televisore o quando vedi la qualità HD. La verità è che una delle migliori qualità dell'HD è l'audio, nel senso che tutti pensano solo che possa essere il video. No, no, l'audio è meraviglioso, soltanto che si vede, sembra sempre un backstage adesso in certi televisori, cioè vedi come se fosse una commedia televisiva, ma non è mi molto piace. Reale, è troppo reale, sì, troppo. Tutto definito, tutto... Eh sì, ma non perdi quella pasta del film, esatto, no? Della finzione. È verissimo, nuovi televisori. Ciao Laura, com'è stato lavorare al leggio di Million Dollar Baby insieme al grande Renato Mori? Grande Mario. Però non era lui, però. Non siamo, però, io l'ho fatto da sola. Non era Renato, però, non era Adalberto Maria Merli in questo film? O era Renato Mori? Renato Mori faceva Renato, il tuo allenatore. No, il mio allenatore, l'altro personaggio c'era. Sì. Dillo, parole tue, tranquillo, trova non la parola. Mi ricordo i nomi. Ah, va bene, non c'è problema. Aiutatemi. Comunque. L'altro personaggio, comunque c'era. Lavorare con Renato è una meraviglia. Io Morgan Freeman, grazie. Abbiamo qui una redazione composta da una persona, ma ricchissima, sì, e anche i nostri autori sono molto attivi. Già tanto se mi ricordo attivi. I nomi dei figli. No, no, ma Renato Mori posso dirtelo io, perché ci ho fatto insieme la trilogia del Signore degli Anelli e lui era il nano, che poi in realtà è un gigante quello, e Renato era il più goliardi. Renato del me gruppo. Lo diceva sempre: abbiamo fatto quel film insieme, che non abbiamo fatto insieme, sì, ma che l'abbiamo fatto insieme. Ed era sempre contento. Che voce meravigliosa. Adesso faremo delle trasmissioni dedicate agli amici che non sono più con noi, ma che ci hanno regalato l'immortalità della loro voce. Per cui, beh, grazie a questo lavoro. Beh, grandissimi. Sì, ci sei in qualche modo. Io già penso a mio figlio quando farà sentire i cartoni animati ai figli. Beh, sì, perché lì sei abbastanza immortale. Finché sì, non ho capito. No, finché non fanno finché non restaurano. Finché non restaureranno Mulan, sì, io sarò Mulan. No, io ho fatto in per 5 i tuoi figli sarò Mulan. No, in 5.1 l'ho fatto. In realtà rimangono. Mulan è uno di quei film che stanno rifacendo come quello che abbiamo fatto noi. Io per doppiaggio ero Bella e la Bestia, che stanno rifacendo Pinocchio. Pensa che Pinocchio dovrebbe essere Jude Law. No, pensa che lo stava preparando forse hanno trovato la strada di rifare in carne e ossa i personaggi Pinocchio di Tim Burton. No, io dico quando rifanno proprio il doppiaggio. Sì, ne parliamo in un altro momento. Rimanete qui con noi, adesso c'è una pausa leggermente più lunga perché c'è il GR e torniamo insieme a voi e altri ospiti per telefono. A tra pochissimo con Voice Anatomy. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Il segnale orario vi è offerto da Unica. L'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno in studio qui a Radio 24 dagli studi di Roma e colgo l'occasione anche per salutare gli studi di Milano che ci aiutano anche in questa questa diretta. Ciao ciao a tutti, 16.05.06 in questo momento, sempre Laura Linghi alla mia destra, sempre Salve. Andrea Mete alla mia sinistra. Salve. Eccolo, lui se non utilizza la voce soffiata all'interno dei suoi personaggi. Spero che va tutto bene. Non insomma. È mezzanotte e 40, non è una linea porno. Alita sul microfono. Esatto, e ha mangiato l'anduia spalmabile, bisogna questo, dirlo. Queste sono cose private. Il nostro tecnico del... il nostro tecnico del suono, non so per quale motivo, aveva l'anduia spalmabile. Adesso chiedo ai miei amici calabresi, visto che io sono reggino di origine. Posso ammettere che è una delle cose più buone del mondo. Sì, però spiega bene, cracker. Non ce l'aveva solo spalmabile, ce l'aveva attascabile. No, la verità è che c'è una scatola che è come se fosse un pacchetto di sigarette, dove dentro invece delle sigarette ci sono bustine di anduia che sono spalmabili. Sembra una tratta da colombiani, del cartello colombiano. Una delle cose più buone. No, non la conoscevo sinceramente, so che può essere spalmabile la cosa, ovviamente. Se posso però... darvi un consiglio, non usate un solo cracker, ma usatene due. Sì, è fondamentale, perché la trasmissione è giusta, insomma, questa qui, essendo una trasmissione di cucina, mi sembra giusto. Proprio il dialogo giusto per affrontare l'inizio di questa parte, l'ultima parte di Voice Anatomy. Ma parliamo un po' di Laura, insomma, abbiamo parlato di Hilary Swank, Swank, così si pronuncia, perché ridi? Swank. Giusto? Ok. Shonk. Va bene, Shonk. Che cammina male. Vabbè. E tantissime altre. Prima Xina, dove facevi Olimpia, un sacco di eroine. Eh sì, basta che picchiano. Basta che picchiano. Qual è un'altra che picchia di quelle che fai? Anche... Walking Dead. Michonne. Michonne. Tu non sei morta, non puoi dire niente se non sei morta in Walking Dead. Non dico niente perché non sono ancora morta. Esatto, sono uno spoiler, se non si arrabbiano. È un per cui Agent, ancora com- Agent. Aspetta, sì. Ce la posso fare? Sì. Agents of S.H.I.E.L.D. Ah, Agents of S.H.I.E.L.D. Abbiamo Marvel. Delle difficoltà, Marvel anche questo. Picchio anche lì. Picchi anche lì. Walking Dead ammazzi un sacco di gente. Qual è Mission? Io l'ho visto, però mi sfugge il personaggio che è quella di colore che ha la sciabola, sì. Con la spada. No, con la katana. Con la katana, scusami. Scusa. Perdonami. Ah, sei tu quella che... sì, in effetti, quella uccide dal primo momento che ho visto. Parla poco e uccide molto. Però tu non doppi la katana, ma doppi lei, per cui più, più parla e meglio è per te. Sì, e il problema è che tengono i versi... Ah, i versi originali. Si può dire, puoi concludere le parole, lo sai Laura? No, perché ti stavo guardando, ho detto oddio, i versi originali posso dire. Sì, si può dire tutto, non è che... Perché noi firmiamo dei diritti in cui usciamo dalla sala e non possiamo parlare più di niente, a meno che il film non sia già uscito, già consolidato. Katana si può dire, Katana... Michonne si può dire, sì. Walking Dead pure. Che stagione sei arrivata? La settima di Walking Dead? Questo non... Finiranno di camminare? Non si sa niente della settima, non si può dire. Si può non dire. Esiste la... Però c'è Fear of the Walking Dead, che è paura di morti. Poi esce. Ai oddio che dolore, Walking Dead. Walking cioè, Dead. Working. Esiste working. Sono i morti che lavorano. I morti che lavorano non è male. Ma qua ce l'abbiamo. Non è male, bisognerebbe farlo questa cosa in internet. Sarebbe super. Working Dead vi fa ridere. Working Dead è geniale. C'è tutta gente ne fa più. Sono morto di lavoro oggi. Stanco. Sono lavorano nelle aziende che non ce la fanno più. 24 ore al giorno. Fatelo. Tu sei Working Dead. No, facciamolo noi. Questo abbiamo detto per primi noi. Scusa. Allora, facciamo noi. Assolutamente, qui mi arrivano dei messaggi anche per altre trasmissioni, non c'entro niente con queste lamentele. Va bene, sentiamo invece un'altra cosa, non abbiamo, ma tu sei anche Scream, tutti gli Scream. Sì, Scream tutti. Di Wes Craven, che poi ha dato origine a tantissimi invece film divertenti che prendono in giro Scream, come Scary Movie, eccetera, eccetera. Scream sei Neve Campbell, ma ci fosse un nome tranquillo, santa... Che poi è Neve. Però tutte molto belle. Belle, Neve Campbell, adesso quella mora straordinaria di tutti i film. Ho fatto un ball secondo voi, sono strike no, secondo ma un ball no, su una lettera no, l'ho presa no. Per me su Campbell, Radio 24 finisce qui perché non è chiaro di poter andare avanti. Ce n'abbiamo un momento piccolo magari di, perché so che è difficile, vediamo il trailer, sentiamolo questo di Scream. Numero uno, non si deve mai fare sesso. Sidney, sono io. Mai, mai e poi mai, in nessun caso dire torno subito, perché non si torna più. Ti prendo un'altra birra, ne vuoi una? Sì, certo. Torno subito! Non le ha inventate lui le regole. La polizia dovrebbe guardarsi non entrare in quella casa, risparmierebbe tempo. Ma le segue per uccidere. Non rispondere al telefono. Pronto? Ciao, Sydney. Si è spinto troppo oltre. Ti piacciono i film dell'orrore? No, che gusto c'è? Il fatto è che sono tutti uguali. Uno stupido killer che insegue una tettona che non sa recitare e corre sempre su per le scale invece di uscire di casa. È un insulto. Ci sono regole precise che devono essere rispettate se si vuole sopravvivere in un film dell'orrore. Ma questo è Scary Movie, credo. È Scary Movie, non è Scream, è la presa in giro di Scream. Laura Lenghi sta abbandonando lo studio. No, più che altro è che sono accelerata, per cui sempre più Senti, abbiamo invece un altro contributo che riguarda la tua famiglia. Io lo metterei per far capire. Ah, va bene. Giochi con me orso, giochi con me orso, giochi con me orso, giochi con me orso, giochi con me orso, giochi con me orso, giochi con me orso. Insomma, ti vuoi svegliare? Oh. Perché aveva la zeppola. Allora, vi spiego. Allora, questo è Masha e Orso, che è un successo mondiale, che incontrollabile ormai, credo. Sì. Anche loro in Russia, dove sono, ovviamente non si aspettavano questi bilioni di dollari che ci stanno arrivando da tutto il mondo. Questa serie è bellissima, devo dire anche molto interessante, che me la devo rivedere anch'io 10-20 volte a episodio, perché ho un figlio di 2 anni. E però funziona, sì. Anche a me mi prende, cioè, come rimango... Peppa Pig, sono quelle serie che... Preferisco Masha e Orso, sono più verso Masha e Orso. Poi inviteremo chi doppia. Io sto vedendo solo Daniel the Tiger per ora. Tu stai su Daniel, chi ha dei figli in questo momento in ascolto, sì, vi prego di scriverci qualcosa a 349. Mio figlio è solo Daniel the Tiger. Non lasciateci soli in questo momento, 349-238-6666, seguite come noi, avete dei figli che seguono quale serie televisiva seguono? Anche se seguono Scary Movie, insomma, non è un... No, vabbè, 2-3 anni, spero proprio di no. Ce lo potete anche... Dico che parla della tua famiglia perché sono i due figli che si alternano nella voce di Masha. Uno è Luca e l'altro è Sara. Luca, sì, è Luca... Questa era Luca? Adesso? Questa era Luca. La cosa più era piccolo, aveva 6 anni. Adesso ne ha 13. Lui adesso è uscito dal tunnel, cioè dal psicologo, psicologo. Sì, è uscito, per colpa mia è entrato. Ah sì, beh certo, anche tuo marito è direttore di doppiaggio questa sera. Però sono bravi, l'hanno fatta benissimo. Io non riconosco Sara. Sì, l'ha fatta Sara, a memoria. Sì, sì. A memoria perché... Non sapeva leggere. E aveva appena cominciato a leggere, per cui tutte le battute a memoria ha fatto. E a sync perfetto poi. A sync. Poi aggiustato, certo. Aggiustato e se, con i bambini molto piccoli si fa così, che io gliela dicevo prima che incidesse e poi incideva. Gli davi anche l'intenzione? Giochi con sì, me, sì, orso. Sì, sì, sì, sì, facevo tutto e lui faceva a suono e poi gli davo anche la come si chiama, il tempo. Certo. E poi veniva aggiustato il sì. Insomma, dobbiamo ringraziare Laura Lenghi e la sua famiglia se noi siamo ossessionati dalla mattina alla sera con Masha e Orso. Però è una serie, ripeto, molto ma molto intelligente, perché riesce ogni volta, rivedi gli stessi episodi, però te li rivedi volentieri. Sì, dico, è carino. No, è fatta molto carino. Bene. E poi è Luca è diventato troppo grande. Beh sì, adesso giochi con me, Orso, cioè è brutto. Sara ha fatto il provino e... E continua a avere... E... quanti anni ha Sara adesso? Sara adesso ne ha 10. 10 anni, però qui ancora la voce da bambina. Sì, sì, sì, no, poi lei ce l'ha acuta. La alleggerisce bene. Invece lui se ne è liberato e non ne parla, vero? Non ne parla, non ne puoi parlare e non gli puoi domandare di Masha e Orso. Perché, adesso... Perché per lui è un'umiliazione. Ma no, adesso. Ed è colpa mia. Ma no, no, beh, no, vedrai che quando poi si farà i primi quando viaggi poi... Perché adesso le sue però amichette non vedono Masha e Orso magari... Ma tu secondo me gliela dovresti spiegare mettendolo i suoi primi viaggi se li farà grazie a Masha e Orso. Anche la sua prima macchina si comprerà. Assolutamente, quindi io direi che, hai capito? Che gli piacerà Masha e Orso. Fra un po' lo recupererà, sì. Quando avrà dei bambini, quando sì. Incontrerà delle madri con dei figli. Voglia ancora recuperare. Certo, no, per no perché in quel caso io divento nonna, per cui Mi sembra abbastanza, no? Un po' di tempo ancora serve. Per quella dimensione. Laura Lenghi, Mulan, anche qui abbiamo sbagliato l'accento, quanti ricordi, no? Vabbè, oggi è una puntata così, li sbaglio tutti qua. Siamo arrivati al termine, abbiamo un collegamento telefonico con l'amico Dario Cassini, fra pochissimo sempre qui a Voice Anatomy. Voice Anatomy. Eccoci ritornati qui in studio, Laura Lenghi e Andrea Mede ci faranno compagnia fino alla fine. Abbiamo il collegamento telefonico con ormai un ospite fisso di Voice Anatomy che è Dario Cassini. Dario, pronto? Come stai? Come state tutti? Stiamo tutti bene, Cassini. Molto bene, grazie. Bene, grazie. Tu dove stai? Sempre laggiù, nelle tue parti, nelle tue terre, o sei già in prova a Roma prima del debutto di martedì all'Auditorium? Guarda, sono qui in campagna a perdere il sonno. Domani arriverò con un giorno d'anticipo, ma poi sto sonno, insomma, lo posso recuperare perché il teatro l'abbiamo esaurito. Mancano davvero un paio di spiccioli di posti, come si suol dire. Quindi mi fai ringraziare in anticipo i romani. Fallo. Anche tutti quelli che grazie all'averlo raccontato, alla tua professionalità e alla tua faccia in tutti i manifesti di Roma. Beh, guarda, per uno che vuole raccontare tra le altre cose di proprio figlio è una gioia, perché mentre aspettavo la tua chiamata stavo guardando chiaramente un canale per bambini e giuro nasce hanno inventato Orso. Barbie con il cagnolino che lei porta in giro, schiacci tre volte la coda e escono tre stroncettini. Quindi se io penso che abbia esagerato minimamente in quel che ho detto, fidatevi che ci sarà parecchio da ridere. E che anche lui, come Andrea Mede qui al mio fianco, ha avuto un figlio da poco. E tanti auguri, Dario. Collega, sei un mammo. Anche sono un mammo. Quindi che poi guarda, scusami, chiunque ti dica che sei un mammo, tu gli devi rispondere male, tu gli devi dire sono un papà, perché in realtà quando ti dicono fai il mammo, in realtà no, fai il papà. Perché per certi versi, io in effetti può darsi che sia, capito? A meno che tu non gli dai il latte dal tuo capezzolo, e questo sarebbe diverso. Esatto. L'avrei dovuto collegare con un distributore da ascella, di quelli che si schiacciano, come qualcuno, diciamo, nel nord della Lombardia, come qualcuno che contava, aveva in altri luoghi. Non è così. Guarda, per certi versi concordo, però per altri versi mi diverte, soprattutto che sia io dopo 30 anni e circa 26 spettacoli ad argomento femminile di essere diventato sensibile come una donna. Io oramai se guardo anche una pubblicità leggermente più coinvolgente devo trattenere le lacrime. Sì, oramai succede sono più questo. Che mamma e papà, io sono mio nonno. C'è qualche racconto sui bambini nello spettacolo? Parli sempre come sempre fra virgolette, nel senso che il tuo leitmotiv della tua vita sono le donne, no? In tutte le sue declinazioni, come qui la voce in tutte le sue declinazioni. È arrivato Raffaele, quindi si parlerà di lui, di tutto quello che è stato il prima, di quello che è il durante, di quello che sarà il dopo. E quindi in maniera divertente, immagino, non in maniera vera, cioè non farai l'ostetrico. Assolutamente. Abbiamo evitato il test del DNA quando io ho detto adesso papà attualmente ha dei mutui. Questo non vuol dire che ha delle case, le case sono della banca che ci fanno fare i custodi, ma quando papà con calma morirà ti lascerà queste case, quindi domani facciamo il test del DNA e giuro. È entrata sua madre, Raffaele in quel momento ha fatto la tripletta, cioè ha fatto e io ho detto posto, non c'è bisogno di fare nessun test, cioè tutti i talenti aerofagici di famiglia, quindi ci sarà da ridere non poco, ma mettiamo anche in allerta i genitori, perché chiaramente i comici servono a questo. E stavo guardando questa pubblicità mondiale delle salviettine, quelle intime di Mascia e Orso, che io ho acquistato perché erano in saldo, stavano un euro, c'avevo in tasca 100 euro, potete provare a immaginare quanti me ne ha fatti comprare Federica. Quindi siamo entrati in casa, sembravano le Nazioni Unite, in questo profumo di serra tropicale, sono uscito 30 secondi a prendere aria, sono rientrato e c'era una tanfa pazzesca, io immaginavo fosse stato il campione mio figlio che avesse terminato la fase digestiva, in realtà erano le stesse salviettine che costavano un euro perché erano andate a male. Ma dai! Quindi io lancio questo nuovo claim: comprate tutti le salviettine da culo di Mascia e Orso. Prima che le salviettine da culo di Mascia e Orso, il primo giorno sanno di Mascia, ma dal secondo sanno d'orso. Di Orso. Dai, ma insomma. Ci sono consigli di economia domestica per i papà. Grazie. Ma lo cambi il pannolino, lo pulisci, fai il bidet fatto bene, insomma, quelle cose difficili. Sono veloci. Mia moglie si arrabbia che non metto la crema, eccetera. Ma è il tuo primo figlio? È il mio primo figlio, che avendo fatto, senti, per cui avrei tutto. All'alba dei 50 anni, diciamo, sono giovane, sono nel filo degli anni, quindi me lo sono fatto un po' più tardi, perché penso che così quando mi spinge la carrozzina c'ha ancora le forze. Se l'avessi fatto come qualcuno di mia conoscenza molto molto giovane, ecco, è capace che poi non te voleva proprio più spingere. Quindi bisogna essere sanamente egoisti, così come nella scelta del nome, perché ne ho scoperte molte altre. Ma si parla di tutto. Si chiama tuo figlio? Mio figlio si chiama Ridge. Raffaele, come mio papà. Ma a proposito della guerra dei nomi, io l'ho chiamato facilmente Raffaele come mio padre. C'è una coppia di miei amici gay che è convinto che l'ho chiamato come la Carrà e non c'è modo di fargli cambiare idea. Quindi qualsiasi nome tu scelga, poi alla fine Io ti posso dire che l'ho chiamato come una tartaruga ninja, quindi Michelangelo, come l'hai chiamato? Leonardo. Leonardo. Perché era la mia favorita, quella blu. No, vabbè, ma non è possibile. È come se lei avesse chiamato Masha sua figlia, dai. Ma no. Allora, no, vi darò delle informazioni, quindi tanto mi auguro che verrete tutti attaccati sui posti velcro, che sono gli unici rimasti, portare una striscia di velcro da casa e attacchi al muro. In realtà c'è una famiglia pakistana che ha chiamato la figlia Like in virtù del fatto che si fossero conosciuti su internet. No. E sono alcune delle notizie di una ricerca pazzesca. Like. No, certo. Voglio dire, Nicolas Cage ha chiamato il figlio Kal-El. E Kal-El come Superman. È il nome kriptoniano di sì. Superman. Cioè, sì, se tu chiami il figlio come Superman, ogni volta devi cambiare un pannolino. Devi Beh, ma Nicolas Cage, voglio dire. Sì, no, ma i nomi implicano una serie infinita di cose, come Christina Aguilera, che ha chiamato la figlia Summer Rain, cioè pioggia d'estate, ovvero Summer una figa. Quando piove d'estate, sulla spiaggia gli amichetti ci toccano, ma la colpa è sempre di Madonna. Io inizio sì. chiaramente da... Sì. Io inizio da Briatore e dalla Gregoraci, che hanno chiamato suo bambino Nathan Falco. Sembra un supereroe della Marvel, veramente, sì, pure lui. Esatto, quello che dico io, se tu vuoi chiamare un figlio Nathan Falco, io sono d'accordo, ma mi devi dare la lista di tutti quegli altri nomi che invece hai scartato, che sembravano eccessivi, capito? Ma mi devi dire che superpoteri c'ha, soprattutto, sto ragazzino. Nathan Falco c'ha i superpoteri della carta di credito del padre. Che come se c'è il super striscio. Super striscio. No, ma vabbè, ma poi alla fine, cioè, questo monologo, soprattutto quello sui nomi, che continua a divertirmi, perché c'è Lourdes, no? Stavi dicendo di Madonna che ha chiamato Lourdes la figlia. L'ha chiamata la figlia Lourdes, è sbagliatissimo, perché se tu chiami la bambina Lourdes, e tu sei ogni Madonna. Volta che la bambina piange, arrivano i pellegrini da tutto il mondo, quindi ti tocca cucinare. No, ma come dice Pino, soprattutto perché tua mamma si chiama Madonna. Beh, dai. Cioè, sì, come se chiami Međugorje, ma che vuol dire? Dai, non... Come la Gwyneth Paltrow, che ha chiamato la figlia Apple ed è stata costretta a chiamare il figlio maschio Samsung, e l'ha dovuto fare per forza. Certo. E si arrabbia, prende fuoco, come lo vuoi. Quindi ce ne sono, ve lo giuro, ragazzi. Ma anche gli italiani non hanno scherzato. Degli italiani noi abbiamo innanzitutto il grande Eros Ramazzotti, Aurora, artista internazionale che non ha mai brillato, però diciamo, per impegno culturale, il quale ha chiamato il suo primogenito Gabrio Tullio. Si fa un'altra femmina, la chiama Appia Antica, perché quella è la via che oramai ha preso, capito? E ce ne sono quanti ne vuoi. Bello, questo è un bel monologo. Sono comunque Iachi a Elkan e Lavinia Borromeo. Sì. Che hanno chiamato Oceano? No, c'è qualcuno Oceano. No, senti bene, Oceano, Leone e Vita, che per come vedo io sono tre assicurazioni. Sì, certo. Ha detto che alla Fiat sui nomi, insomma, è stato cortissimo. Sì. Non è mai... Immagino Lapo. Lapo è il nome, di cosa deriva non lo so, adesso faranno una ricerca in internet. Lapo, voglio dire, ogni volta che va in America torna che ha fatto una cazzata planetaria, quindi io andrei da un'altra parte, fossi lui. Però me lo immagino in una sede creativa che dica: allora, ragazzi, noi non usciamo da questa riunione finché non abbiamo trovato il nome per una macchina nuova, me ne basta uno mi pare un bel nome, già ce l'abbiamo, allora scegliamo un altro nome, una cosa tipo pure già ce l'abbiamo, e allora brava, allora vaffanculo, rifacciamo la multipla, va bene? Ce n'hai per tutti i gusti, martedì, no, è la festa di San Valentino, ricordatelo, la festa di San Valentino. Poi il secondo tempo mieterà, diciamo, la raccolta degli ultimi anni, ha concluso addirittura con una canzone a cappella che è la mia versione della canzone della Mannoia, che secondo me è perfetta, che è quello che gli uomini non dicono. Ah, certo. Perché l'incipit della faccenda è quello che le donne non dicono. Quindi tu rifletti, ti fermi e devi guardare la platea e dire: ma quando è che non state a dire qualche cosa? Perché a me, che una donna non me stia a dar consiglio, non mi è mai capitato sto miracolo. Al punto tale che tu te devi riferire quante volte le vedove vanno al cimitero a trovare il marito morto, tipo tutti i giorni, perché tanto lui non può reagire. Quello è la cosa. Ma poi soprattutto moriamo prima. Il primo verso è: e ci fanno compagnia certi pipponi da 6 ore, parole che sente solo lei. E se torniamo lì e ritorniamo tra 3 ore, che angoscia, sta ancora lì a parlare. Quindi secondo me ce n'è parecchio, perché poi te le fai amiche, te le fai, verranno uomini soli, e poi lì devi fare la canzone dei Pooh a quel punto. Devi farla a quel punto, uomini soli, che ci sta, dai. Con il biglietto in mano, io faccio una serie di liste e spiego anche chiaramente che, voglio dire, anche se si è innamorati veramente, probabilmente se si sta insieme da tempo si potrebbe desiderare, oggi San Valentino, un miracolo e di trovarsi vicino a un'altra donna. Quindi organizzo uno scambismo virtuale con i numeri delle poltrone, avvisando che se per un incidente del destino dovessero ricapitare con quella con cui sono partiti, non possono chiedere indietro il prezzo del biglietto. Così come se tu trovi un singolo a San Valentino, devi pensare che questo è un genio, perché si viene a rasserenare guardando intorno a sé il dramma del sentimento, va a cena fuori, magna per due e paga per uno. È veramente un grande pensatore. Sei un uomo che si è sposato, che ha un figlio e disincantato sul lavoro. Ma dai, senti amico mio, allora ti auguro bene, ogni bene, ma sta andando già benissimo. Guarda, tanta merda, come davvero, si dice. Auditorium quale specifica? Perché Roma della conciliazione davanti al Papa a San Pietro. Sì. E parliamo anche di lui. Non c'è no, con calma, stai a 100 metri, eh? Lo so, devo stare molto attento. Ti scomunicano. Esatto. Va bene, Dario Cassini. A te, grazie. Forte. Ciao. Martedì. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Dario. Buona trasmissione. Ciao. Grazie. E allora, sì, Dario ha sempre avuto qualcuna sulle donne, sei d'accordo? Sì. Essendo donna, devi spezzare una lancia. Ma sì, ma cioè, è il luogo comune della vita, insomma. Siamo di senza donne, perché senza donne non vivi. Ma anche una donna senza un uomo. E come, eccola, questo è come l'uomo macio e l'uomo micio. Quante trasmissioni sono state fatte con questo titolo? Va bene, noi andiamo in pubblicità per la penultima volta, perché siamo arrivati quasi alla fine. Aspettateci, torniamo con Voice Anatomy, i nostri due graditissimi ospiti. Voice Anatomy. Bentornati signori miei a Voice Anatomy, siamo qui negli studi di Roma e colgo l'occasione per salutare non solo Milano ma anche il nome di chi aiuta la messa in onda, che è Gianmarco Ferronato. Ciao Gianmarco e grazie del tuo lavoro in ombra, oscuro, come un bravo centrocampista, quelli che senza i quali tu non puoi portare a casa una partita, insomma. Va bene, allora continuiamo con Laura Lenghi, insomma. Tu quando hai cominciato, Laura? Presto anche tu, come i tuoi figli, oppure nel no? Nel 77, no... 77. Nel 77. Tieni a nel 77. Se non lo dire, dico. I 9 anni. 9 anni. È 9 anni. Tu c'hai quasi 50 anni. Io vorrei... Oh. Ho capito, ma stai bene, devi dirlo, ma devi urlarlo. Dai, adesso non è radio, non è televisione, ma andatevi a cercare Laura Lenghi. Qualcosa troveranno, no, di foto recente l'hai fatta. Comunque sei uguale a 20 anni fa. Ci sentiamo, dottor House, tu eri? Olivia Wilde. Quante serie hai fatte tutte? Tutte. Sei mai morta? Sono finite? Sono morta. Sei morta. E alla fine, lei ha una malattia molto grave per cui se ne va, però si presume che muoia. Ah, e qui abbiamo proprio il pezzo in cui si parla della malattia, riporta alla luce questo momento. Ha una malattia ereditaria? Sì. Dalla no. mamma. Sì, è fondamentale questo racconto. Ascoltiamolo un attimo. Che cosa diavolo è? Sembrerebbe una busta con i risultati del test genetico per la Huntington. Li ha letti? Credevo che l'avremmo fatto insieme. Io non voglio sapere. No, tu hai paura di sapere. Potrei morire. E anche lei potrebbe finire sotto un autobus domani. La sola differenza è che lei non è costretta a saperlo oggi, perché io sì. Non devo sapere i numeri della lotteria, ma se qualcuno me li offre, li accetto. Si passa tutta la vita a cercare risposte, perché si crede che la risposta successiva cambierà qualcosa e probabilmente la renderà un po' meno infelice. E si sa che quando sono finite le domande, non sono solo finite le risposte, è finita la speranza. È contento di saperlo? Ho preso una botta di tristezza, perché è vero. Tu domani potresti morire in un altro modo, non sei costretta a saperlo, mentre uno che ha una malattia magari lo sa, però combatte. Certe volte campa pure di più di qualcuno che non sa di lei. Sì, lei era molto schiva sulla sua vita privata. Qui era Luca sulla Biagini, sua... vero? Già, no. Dottor House? Era no. Sergio Di Stefano? Sì. Era Sergio, sì. Grande, indimenticato, sì. Un altro grandissimo. Sì. Doppiatore. Lavoravamo insieme. Sì, ma una persona fantastica. Vabbè, avremo modo di parlarne sicuramente. Hai fatto un'altra bellissima Ah, qui ci arrivano messaggi. Cacatana, Pino mi fa morire. Mi ho detto prima Cacatana, è una cosa un po' romana, va bene. Cacatana. Buongiorno, qui ci mandano pure i messaggi. Qui solo dottoressa Peluche, qui le Winx, insomma, ognuno ha la sua croce. Le Winx, è vero. Ci stanno. Io sono una Winx. Ah, pure tu sei una Winx. Ah. Quale sei delle? Nera. Renato Zero, quale sei? Quella nera. Ah, è vero. Aisha. Scusa. Che, allora, non fate rime. No. Perché con Aisha si può fare tutto. Sì, è diventata da spettacolo Alenghi adesso. Ci sottovaluto. Mazza, dai, siamo a livelli più alti. Aisha, dai, non si può fare. Sei quella nera, va bene. Va bene. Nera. E tu c'hai la voce un po' questa ingolata scura. Black, sì, sentilo questa. Ingolata black. C'è un signore Anzolieto che ci dice che vuole fare il doppiatore perché ha 59 anni e ha una bella voce. Ora, come abbiamo detto all'inizio, non è l'età, assolutamente, è il fatto che non basta avere una bella voce. Come dico sempre, non è che uno basta avere la mano ferma per fare il chirurgo, devi fare un percorso in medicina, laurearti e poi fare un percorso tecnico che ti dà per fare il doppiatore. Devi essere un attore, devi averlo almeno affrontato. L'età è avanzata, sei giovane per tante cose, ma per questo mestiere no. Insomma, ma poi l'addizione è importante, nel senso che noi viviamo in Italia, abbiamo tantissimi accenti, tantissime inflessioni lessicali del luogo dove siamo nati, quindi prima ancora poi di essere un attore uno deve avere una dizione pulita, deve è un'impostazione della voce, sapere sì. Come muoverla in tutte le sue è come il corpo, saper insomma, respirare, come esatto, come dici, io ho belle gambe forti, vorrei fare il salto in alto, l'hai mai fatto? No, allora, non lo puoi fare, insomma, a meno che non è come 15 il anni il parkour che insomma, e poi c'è l'incollo. L'incollo, che cos'è? L'incollo è quando una persona si incolla sul personaggio. Ah, non l'avevo capito. Sinceramente non l'avevo capito. L'incollo ci vogliono anni. Anni. Sì, non c'entra niente col l'incollo, è l'incollamento. È l'incollamento. Che non è l'accollo. No. Che non è l'accollo. Che non è neanche il grande e bravo Tonino Accolla, che salutiamo lassù. E lo risentiremo qua giù, perché faremo una puntata anche su questi grandi personaggi. No, ma noi parliamo col sorriso, perché deve essere così. Deve essere... Questo è un lavoro che permette a tutti di noi di sentirli sempre. Quindi Noi lo faremo sicuramente. Però io ti ho dato una lettura prima, a proposito abbiamo cominciato la trasmissione parlando di droni, di Snowden, eccetera. Sì. Che lettura è? Come si forma un drone? Che cos'è? Come si... Sì. Parto come si subito... monta un drone? Sì. Volevo... cercare delle voci... Dedicarlo a Rocco. Rocco chi? Il drone di Rocco. Il drone di Rocco. Cioè? Prima abbiamo parlato di un dronone. No, smettila! Ma come il drone? Ma per un attimo! Laura è molto legata a Rocco. Ma perché? Perché sì. Si sono frequentati per un periodo. Che cos'è questo? Dice, ragazzi, andate su YouTube e guardate cos'è la Huntington. Non ridete? Che vuol dire? Vabbè, forse non ce l'ha con noi. Huntington. Sì, che cos'è? È una malattia. Ah, sì, ma non la stiamo malattia... ridendo della malattia, no, amico no. mio. Stai sereno, tesoro. La malattia che ha il personaggio di Olivia Wilde. Ma non abbiamo Wilde. Riso no, di questa malattia. No, è una malattia molto grave, infatti ma stiamo lei... scherzando. Ma dai, ma cercate, ci seguite. Capite chi siamo e pensate che stiamo ironizzando su una malattia. Ma state scherzando? Ma su, ma per favore. Io leggo tutto perché è giusto leggere tutto, perché anche per dare una direzione netta. Non c'è né ironia, né abbiamo scherzato. Abbiamo giocato, casomai, sulla sua voce o su quello che è successo al suo personaggio, ma non alla malattia. Su, mi stai seguendo dall'inizio della trasmissione, vedo che mandi dei messaggi carini e interessanti e ti perdi poi così in un bicchiere d'acqua. Su, tranquillo. Va bene, insomma, volevo leggere questa cosa con la voce di Paperina, che Paperina non è vero che tu fai Paperina. Ok. Va bene, vai. Telaio tipo 1, quadricottero. Questo è al momento il più comune tipo di telaio che vedrai nell'industria dei droni. No. Ha quattro braccia, ognuno collegato ad un singolo motore. Nell'illustrazione, questa è soffiata, sì. Qui sopra noterai che il quadricottero è progettato con una configurazione a Dix. Anche la configurazione A+ esiste comunque. Quando stai imparando per la prima volta come costruire un drone, raccomando altamente di utilizzare una configurazione a quadricottero. Non solo è il tipo più semplice di configurazione che troveresti, ma è anche uno delle più versatili. È per questo che i modelli di droni più popolari, come la serie Phantom della DJI e il Parrot Bebop, sono costruiti sempre con questa Configurazione. Con la musica con American Beauty sotto e Paperina sexy. Non è male. Questo sai, adesso tornerai a casa e non ti chiameranno mamma i tuoi figli. No, ma non l'ho detto ai miei figli. Ma non hai detto dove andavi. No. Ma ci sono i podcast, sai, scaricabili in ogni secondo. No, c'è no, il nostro no. sito, vi ringrazio delle migliaia di like che ogni sera. Ormai si valuta su quello, sui like, una volta quanto vendevi, no, i numeri, sono i like. Adesso sono i like. Tu hai fatto una diretta prima, come like hai like. Siamo a 500 visualizzazioni adesso. No, ma insomma, non entreremo nella storia, ma insomma, non abbiamo avvertito nessuno. No. Esattamente. È stata una sorpresa. Assolutamente sì. Pensa che lavorando, ho collaborato per dei lavori, insomma, dei giornali anche in America, e ci sono delle agenzie di moda in particolare, non so se anche per gli attori funziona così, che loro al colloquio ti chiedono di scrivere quali sono i tuoi social network e quanti follower hai. Certo. Dipende se quanti follower hai, loro ti prendono o no. Ma tu te rendi conto? Cioè, com'è cambiata la vita? Io ci penso spesso. C'era un signore nato 2017 anni fa che aveva soltanto 12 follower. 12. E beh. Guarda che ha fatto. C'è un sacco di chiese che lo seguono. Ho capito, ma capisci che non c'era nient'altro che la parola. 11, perché uno insomma si è comportato un po' strano, diciamo che poi si è cancellato dal sito. Certo che se poi è andata così come, guarda, come questo ci dice parola, come vi permettete di prendere in giro. Ah, dai, stiamo giocando, ma giocando seriamente, perché no, è un pensiero che uno deve farsi. Invece è super serio. Invece, capito? Il passaparola è l'elemento di comunicazione più importante. Speriamo sia stato reale il passaparola, che non è come quello che fa. Quello ha detto. Cioè, no, alla fine arriva. Sta poco bene soltanto. Diceva, era morto. Capito, no, quindi, era un panino. Ma lasciamo stare, diventiamo blasfemi. Dai, può essere una cosa divertente a teatro fare un'analisi del cambiamento dei tempi. Senti, anche un'altra bellissima donna che non voglio pronunciare il nome, hai fatto sul Quinto Elemento di Luc Besson, la sua ex donna, sì, bellissima. Sì. Lì c'è, secondo me c'è la scena d'amore. E non so se abbiamo preso quella, so, amore mio, tu ci stai, fai delle cose a richiesta. Sì, abbiamo preso quella, è fortuna. Perché è la scena d'amore, penso, più bella. Sì, perché sì. Il vestito che c'aveva lei nel Quinto Elemento, stiamo parlando di Milla, non lo dico il cognome. Jovovich. Grazie. L'ha detto. Sì. È salitato anche. Sì, bella come il sole. E in quel vestito di un italiano è lo stilista, mi sembra, di quelle strisce sul seno e sul resto del corpo. Io mi ricordo. Sì, sì, in italiano. Cambia argomento. No, tu. No. C'è una domanda più. Non era forza sapere tu. Non lo devi sapere per forza. Non lo sappiamo. Comunque non so qual è, ma è uno stilista. O francese. Vabbè, uno di due. Tanto quelli sono i stilisti. O italiani o francesi, quelli più bravi. Per sì. cui. E noi ce l'ascoltiamo questa scena. Parlava d'amore. Pochissimo. Però come parlava? Parlava in una lingua strana. Com'è la sua voce sensuale come la tua? L'hai seguita bene? Era piccina. Sì, io ero piccina anch'io. Sì, A quell'epoca. Sì, parliamo di un infatti, bel po' Infatti, Del Piaggio a volte sono strane gli accoppiamenti di età come voci, perché molte volte ci sono delle voci che coprono un tipo Jean-Paul di età Gaultier, diverse. Mi dicono dall'altra parte del Jean-Paul Gaultier, eccolo, è francese. Spero che sia francese. Beh, sì, dovrebbe. Dovrebbe essere francese. Ah, okay. Allora, ascoltiamoci questo bel accoppiamento di corpo e voce fra Laura Lenghi e Milla Jovovich del Quinto Elemento. Ci sono cose che vale la pena di salvare, cose meravigliose, cose bellissime. Come l'amore. Sì, sì, come l'amore, brava, hai fatto un buon esempio, come l'amore. L'amore va salvato. Io non conosco l'amore. Non conosco l'amore. Mi hanno creata per proteggere. Non servo a nient'altro, solo a questo. No, no, no, ti sbagli, ti sbagli, ti sbagli. Io ho bisogno di te. Ho tanto bisogno di te. Perché? Perché? Perché? Diglielo, Corben. Perché hai bisogno di me? Perché? Dimmelo! Che ti amo. Beh, affascinante da morire, vero? Sì, una bellissima. Sì, questa voce da bambina grande, meravigliosa, sensuale, nello stesso momento una bambina che si sta perdendo. Vedete quanto è difficile? Cioè, lei non stava sospesa nello spazio vestita Jean-Paul Gaultier, stava in jeans e camicetta magari dentro una sala buia davanti a un microfono senza far rumore, ma ridare quell'esperienza vocale, quell'esperienza di sensi e di emozioni che la voce sta dando a quel momento. Per questo vi dico, non è facile. Poi, se il nostro amico si vuole divertire, sono tanti corsi di doppiaggio per prendere confidenza con il microfono, con se stessi, eccetera. Si può fare, nessuno può essere giudice di nessuno. Però poi l'abbiamo è una professione provata importante. Insieme, però non l'abbiamo incisa insieme. Lo so, ma perché certo erano... si accavallavano troppo. Chi era lui? Vabbè, faccio un'altra domanda. Lui, Massimo Corvo. Massimo Corvo, così leggero. Massimo Corvo, la voce, lo sapete, insomma, Silvestre Stallone e quant'altro. No, lì invece... Bello, alleggerito, Massimo Corvo d'altri tempi. Bello. Va bene, siamo arrivati anche alla fine del penultimo blocco, l'ultimo. Ci collegheremo anche con l'amico Capuano, di tutti i convocati, per sapere... Tu stai andando via adesso, allora va bene, allora saluto Andrea, c'hai vi saluto, 9 ragazzi. Secondi per salutare. Vi ricordo www.andreamete.it, se non sbaglio, com, vi saluto, grazie a tutti fotografo per avermi ospitato. No, grazie a me, basta, grazie a Pino di avermi ospitato, no, anche i nostri e Radio 24. Ciao Andrea, ciao. Io rimango con Laura e con Capuano, va bene. Voice Anatomy. Bentornati signore Voice Anatomy, abbiamo gli ultimi quanti minuti insieme? 10 minuti insieme da condividere con Laura Lenghi. Nel frattempo l'amico Andrea Mete sta abbandonando gli studi di Radio 24 e io rimango qui con Laura. Laura, quando hai capito che potevi fare questo mestiere? Tu teatro? Cinema? No, sei rifugiata nella sala. Nella sala. Ma che sei timida, vero? Ti vedo che sei sì, un po' timida. Sì, io sono timida. Ho iniziato per caso, stranamente. Avevo mio papà lavorava in Rai, uh-huh. E spesso andavamo a casa di un signore che si chiamava Emilio Cigoli. Beh, il signore Emilio Cigoli, che era doppiatore di John Wayne e quant'altro. Un signor doppiatore. La prima generazione dei grandi. E mi ha portato Emilio in sala, all'insaputa di mio papà, che mio papà aveva sempre a che fare con gli attori, per cui il fatto che io volessi, non lo so, mi ci sono trovata per caso, iniziassi una carriera da doppiatrice, insomma non era contento, per cui i primi 2-3 anni l'ho fatto di nascosto. Ma dai, di nascosto? E papà lavorava a Milano. Ah, per cui tu a Roma. Mio fratello mi portava i turni. Chi era il gancio? Mamma? Mamma lo sapeva. Mamma lo sapeva e mio fratello falsificava la firma di papà per il permesso. Che cosa! Tuo papà l'ha saputo dopo. Adesso l'ha saputo c'è dopo. C'è ancora papà prima che sì, c'è ancora papà. Ecco. Papà l'ha è orgoglioso saputo. Adesso di questa tua piccola scappatella. Sì. Non è male che il fatto che tuo fratello falsificasse la firma. Bastava firmasse tua mamma, no? In quel caso. No, ci voleva la doppia firma. La doppia firma. Non mi ricordo se era la doppia firma, ma credo sicuramente ci voleva la firma di papà. Ma l'ha saputo tramite altre persone? Oppure... No, tramite mia mamma gliel'ha detto. Un bel giorno gliel'ha detto, insomma, quando è cominciato a prendere... Perché neanche Emilio gliel'aveva certo. detto. Ma Emilio poteva dirglielo con quella voce. Allora tua figlia fa il doppiaggio. Avrebbe è iniziato soltanto... così. T'ha citato tuo padre, zitto, buono, non puoi, dopo la voce John Wayne per telefono, tu fai quello che dice lui, per telefono però. Per telefono. Fisicamente non l'ho mai conosciuto. E poi è iniziato, c'erano gli anni 80, ho fatto un sacco di cartoni, L'Ape Magà, Candy. Chi eri a Candy Candy? Eri Irisa. Candy. Ma lo dici come se io... Non seguissi... Come fai a non sapere che ero Irisa? Cioè... Ne parlavo prima con Alessandro. La più cattiva della sempre storia. Tu, non sei sempre cattiva però. No, io sono buonissima, timidissima, esatto. E riservata. Infatti per incastrarti questa domenica ti ho dovuto coercizzare in qualche modo. Ma sai, le persone sono molto curiose di questo mondo e crea curiosità. Tu ti trovi magari in delle tavolate dove ti chiedono, fanno mille domande quando sei doppiatore. Allora, io in genere dico che sono una libera professionista e non lo dico. Se qualche amica magari lo sa e lo dice, ma guarda che lei fa il doppiaggio. E lei la voce di... E non ci credono perché io la voce che uso per lavorare è diversa da quella che uso per parlare normalmente. Certo. Per cui pensano che l'amica dica una cavolata. Una stupidaggine. Sì, ma non è che uno può vivere. Ciao piccola. Ci vediamo più tardi e lasci i messaggi in segreteria come nei film americani. Io sono bellissimi. Uso un'altra voce quando proprio si spegne la luce rossa. Quando c'è la luce rossa. Cioè, te ti ha fatto da lettino da psicanalista per questo lavoro. Sì. Cioè, ti sei liberata di qualsiasi tipo di problema. È vero. È vero perché interpretando ogni giorno qualche personaggio. Hai risparmiato nuovo. Guadagnando. e ho risparmiato guadagnando. È la cosa migliore. Senti, Capuano lo abbiamo in onda? Sì, certo. Ah, c'è l'amico Capuano, bello, come stai? Bene, oggi bello poi... no, toglielo dalle parole ma che ho detto. No, no, no, Capuano, ti ho incontrato a Milano, dai. Sei intelligente, interessante, bello, no, no. Ho detto, no, non è che tipo. Mi sono girato e ho detto, sono chi tipo, è quel bel tipo, tipo lì? Va bene, mi spiace che oggi la Lazio gioca domani. Ma infatti, mi spiace che oggi la Lazio perde domani. No, tutte queste cose che andiamo in diretta nazionale, ti becchi tutti i vaffa da parte dei miei colleghi biancoazzurri. No, no, non perde. È un gioco, ma anche secondo me, non lo so, poi guarda, veramente il calcio, guarda Lazio Chievo, insomma, no? Qualsiasi sì. cosa, tu guardi gli highlights di quella partita e dici vabbè dai, ha vinto 4-0, invece hai perso 1-0. Raccontimi, io sono rimasto una partita di mezzo giorno e mezzo della Roma che ha vinto 2-0. Infatti immaginavo, insomma, dopo il rigore mangiato, il gol di Nainggolan che non smette di stupire e di stupirsi in tutto e per tutto. Ha segnato Dzeko nel finale, 18° gol e capocannoniere. Sì, dopo rigore mangiato e altre situazioni pensavo che fosse andato in palla come gli succede, invece non è riuscito a sbloccare, per cui riscavalca il Napoli. Sì, riscavalca il Napoli al secondo posto, Napoli che quindi scende terzo dietro in attesa della Lazio. Segnalare l'Inter che sta vincendo 2-0 con l'Empoli, i gol di Eder e Candreva, uno nel primo, uno nel secondo tempo, ma insomma c'è stata anche qualche bella parata di Handanovic in questa domenica un po' particolare per l'Inter dopo la settimana delle polemiche. Sì. Poi ti racconto dell'Atalanta. Dimmi. Che sta vincendo 3-1 a Palermo, Conti, Gomez, Ciocev e Cristante. Mai come quindi... adesso è delineata proprio la parte bassa della classifica, è veramente già delineata, cioè Palermo, sì, stanno Pescara, perdendo Crotone. Tutte e tre, sì, il Crotone ha perso con la Roma, il Palermo Roma. Abbiamo detto, il Pescara sta perdendo 5-3 a Torino, 5-3. Perdeva 5-0, ha fatto 3 gol negli ultimi 10 minuti, siamo in tempo di recupero. Irrecuperabile. Esatto, partita, Pescara che ha decisamente mollato in questa parte della stagione. Quindi di Torino-Pescara ti ho detto, stiamo aspettando solo il fischio finale. E poi l'altro è Sassuolo-Chievo 1-3 con tripletta di Inglese per il Chievo. Il Sassuolo si era portato avanti con Matri. Sassuolo che gioca in 10 uomini dal quarto minuto del primo tempo. Addirittura, quindi, che ha fatto questo? È stato espulso per farlo succhiare occasione da rete dall'Eskert. Poi il rigore in realtà Inglese l'ha sbagliato. Questa è la domenica di Inglese, ha fatto tripletta e ha sbagliato un calcio di rigore. Però Sassuolo ha giocato praticamente tutta la partita in inferiorità numerica. Poi ti ricordo che alle 18 c'è Sampdoria-Bologna, alle 20.45 c'è Cagliari-Juventus. Domani c'è Lazio-Milan, alle 17.05 minuti c'è tutti i convocati weekend. Assolutamente sì, più importante di tutta la domenica, più di quello che precede tutti i convocati, cioè solo tutti i convocati. Capuano, ti ringrazio. Alla prossima. A ciao. Domenica prossima, un abbraccio. Ciao. Bene, anche Laura timidissima. Ciao. Un ciao. Eccolo, timido, ma vai, ma anche solo per telefono sei timido, anche per telefono? No. No, dipende. Dipende con chi parli. Con chi parlo. Non riesci a fare scherzi telefonici tu, no? No. Dipende. Dipende con chi parlo. Con anche chi parlo. Mamma mia, Lenghi, ma è possibile? Fai della voce la tua arma migliore e non la usi. Beh, questo ti fa onore da un certo punto di vista. Non l'hai mai utilizzata per qualcosa di importante? Hai mai modificato? Sì, tu non sei il tipo, visto che sei così timida. Quando ma chiamo l'amministrazione, le varie amministrazioni, per chiedere quando ci sono quando i pagamenti. Lì utilizzi la voce di se Walking Dead. Se risponde un uomo, sì. Fai Walking Dead, li fai lei, Misha. Michon con tanto di Catanò. Sì. Lì ti rivolgo. Allora, quando pagate? No. Faccio ciao, salve. Ah, vai sul sexy. Sì, vado sul sexy, sì. Ah, facciamo così. Pronto, sono la Dubbing Band Sprain. Con chi parlo? Tu devi fare l'amministrazione, sono io certo, che devo chiamare. Esatto. Pronto? Pronto, parlo con l'amministrazione. Sì, chi è? Sono Laura Lenghi. Senta, volevo chiederle quando ci sono i pagamenti. Adesso, in questo momento. In questo momento. Se lei viene qui. Allora posso venire da lei? Ma in tutti i modi, in tutti i sensi. Mi può dare un orario? Ma scelga lei. Ah, va bene, allora va bene verso le 4? Sì, anche se ho già chiuso da un'ora, ma l'aspetto. Grazie. Se vuole, io l'aspetto. Va bene, allora io arrivo. No. Oddio, io amo quegli uomini dall'altra parte del vetro, vedi? Questo significa prontezza di riflessi in tutto e per tutto. Per metterò cui... la sigla ogni volta che chiamo un'amministrazione, parto con questa subito. Se mi risponde la donna, e fai niente. Ma senza l'IBAN ti pagano questi. Una donna, cash. Se una donna che è in quel caso, che fai? La voce è decisa. Se... donna. Dipende, magari conosco anche la persona. Beh, sì, ormai allora... sì, li conosci. Sanno sì, perfettamente sì, che utilizzi questa voce, sì, che poi non succede niente. Non succede niente. Perché poi ti fanno Lenghi, basta sta storia, e se paga il 15 del prossimo mese, guardi, finisce lì così. Va bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Voice Anatomy. Io ringrazio Andrea Mete, che non c'è più nel senso c'è, ma è andato di corsa a casa, che ha un figlio piccolo, deve aprire all'idraulico, questi sono i problemi quotidiani della famiglia. Grazie a Laura, grazie Laura Lenghi, perché ha fatto uno sforzo enorme. Grazie, però con te sapevi che stavi tranquilla, sì, dai, sì, le tue pause le riempivo in qualche modo. No. Sempre pure gli fai una domanda che lei non sa rispondere. Ti guarda come i professori, l'alunno al professore. Non la so, non una la domanda so a piacere. Saluto dall'altra parte del vetro Rachele, grazie per tutto il tuo impegno. Il grande Alessandro, ovviamente Alessia Navarro e Mauro Meconi a Milano e tutta Radio 24 che ci permette di andare in onda con questa trasmissione. Adesso la parola passa direttamente nelle mani e nel corpo del grande Capuano con tutti i convocati. Noi ci sentiamo domenica prossima e grazie per volerci così bene.